24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Ma sì, è quello, The Final Countdown, ve lo ricordate? Sono i 1000 giorni, anzi 998 per la precisione. Se andate sul sito passodopopasso.italia.it segnano già meno 998. Che succederà tra 998 giorni? Probabilmente... Da 998 giorni a Locri lavoreranno tutti i dipendenti comunali senza bisogno di appellarsi a Dio, come ha fatto il sindaco. Tra 998 giorni l'Italia sarà sistemata, cari italiani. No, ma per carità, dopo ti danno del gufo, del rosicone, come se fossimo sì, infatti siamo qua. Io, Miriam Lucchetti, Peter Bescapè a sperare che l'Italia affondi. Adesso sembra che siamo qui a sperare che l'Italia affondi. Siamo qui tutti a sperare che l'Italia vada bene. E questo è il dato di fatto. Ma comunque, buongiorno cari ascoltatori. È il secondo giorno dopo il ritorno dalle vacanze. Questa è una certezza. E allora, alle 6:33 minuti, questa è 24 mattino. Io me lo vedo già, chissà quante volte Federico Novella questa l'ha ballata con... Federico, buongiorno! Chissà, buongiorno, ma chissà, chissà ti ha riportato bambino, dai, di la verità. Questo clima anni 80 mi riporti alla scuola elementare, mi riporti. Non eri, non al tempo delle mele mi riporti. No, dai, il tempo delle mele, no. Così. Non eri già in discoteca a ballarla questa con... Sì, sì, beh no, diciamo che non ho fatto un'adolescenza discotecara io, a differenza tua non l'ho fatta. No! No, guarda, io no, ma sono sicuro che c'è qui qualcuno che ci potrà invece, come dire, dare due lezioni su come si balla questa. È Vladimir Luxuria che saluto, buongiorno Vladimir, come stai? Bene, stavo pogando. E vai, poga! Vabbè, sentite il delirio della gente, non sono gli effetti sonori a Palazzo Chigi questi, Federico, era nel video ovviamente di The Final Countdown. Vabbè, questo è 24 mattino, come sapete, alle 6:35 minuti, siamo qui, come detto, Miriam Lucchetti c'è, Peter Bescapè, c'è il Parlamento che può aprire, dai, apriamolo che così siamo pronti. A un caffè si può avere. Ma sempre. Parlamento. Che fine ha fatto Nicole Minetti, veramente? Io tutti i giorni me lo chiedo quando mi sveglio e sento il caffè offerto da Nicole Minetti. Allora, i mille giorni. Tra l'altro, guarda, Federico, oggi dobbiamo... Vladimir Luxuria, tu ne hai combinata una veramente... Ho letto, ma che è successo? Ma che mamma mia, ma porca miseria, guarda qua, pagina... ti hanno dedicato pagina 11 intera del giornale, Vladimir, lo sai? No, non ancora ho completato i quotidiani. Vabbè, il titolo, il finto buonismo di Luxuria, veleni sul padre della Meloni. Ma che ti è venuto in mente di fare un tweet, Spero. Tanto che abbiano scritto veleni sul padre della Meloni e non sulla Meloni è già qualcosa. Perché io non credo, se c'è qualcuno che vuole difendere un uomo che ha abbandonato una figlia a 12 anni e non si è più fatto vedere... Ti hanno accusato, e anche la stessa Giorgia Meloni ti ha risposto, dice: usare vicende personali per un attacco politico. Si parlava della vicenda delle adozioni gay. Insomma, questa è la polemica nata perché Fratelli d'Italia è contro, e tu hai risposto, hai twittato: spero che nessun bambino venga abbandonato da un padre a 12 anni come è successo alla vostra Giorgia Meloni. E insomma dice: ma come, hai tirato in ballo una vicenda personale? Come va? Allora, è da molto tempo che la Meloni e che Fratelli d'Italia è contro le adozioni gay, sì, e io non ho mai scritto una cosa. Quindi allora, se ho scritto questo è perché c'è un altro motivo. È perché è uscito fuori un poster con il logo di Fratelli d'Italia, utilizzando una foto di Toscani, sì, in cui si vedono due coppie, una coppia gay e una coppia lesbica, che vengono rappresentati come dei tossicodipendenti, che si strappano un bambino, praticamente si contendono un bambino che ha lo sguardo perso e le braccia aperte come se fosse crocifisso. Allora, un conto è essere contrario alle adozioni gay, motivarle, argomentarle. Un altro conto è fomentare all'odio, pensare, voler fare questa sorta di propaganda omofoba, secondo la quale, attenzione, ci sono delle coppie gay potenziali tossici che attentano alla vita dei bambini. Sì, ma tra l'altro Toscani si è arrabbiato dicendo: avete usato una foto mia, che non era, per il motivo per cui c'è anche stato il casino con Toscani e Fratelli d'Italia. Sì, tant'è che credo che li quereranno, non so. Però, quindi, io quello che dico è questo. Allora, qui entriamo nel personale, perché entriamo nella vita. Questa mattina ci saranno sicuramente coppie formate da due mamme o da due papà che porteranno il bambino a scuola, che quando vedono questo poster si sentono attaccati nella loro sfera personale. Allora io ho reagito ricordando che proprio la leader di Fratelli d'Italia è la dimostrazione che purtroppo, io dico purtroppo, sì, il fatto non è l'orientamento sessuale di una persona a rendere buon genitore. Esatto, è stata vissuta un po' come una vendetta, cioè, come dire. Guarda, io quando ho saputo da questa storia dell'abbandono del padre della Meloni, io l'ho anche vista in una sfera più umana, non ho fatto gossip. Ho ricordato una intervista che lei ha detto più volte questa cosa, quindi non è che ho voluto semplicemente ricordare che le famiglie sono buone o sono cattive, ci sono persone buone o cattive, che quindi l'orientamento sessuale di una persona non può essere considerato come un impedimento per fare. Vabbè, diciamo, l'hai fatto in un modo che ha infastidito anche la stessa Meloni, devo dire. Non sei pentita. Perché ho colpito un nervo scoperto, questa è la verità. Comunque, insomma, tra l'altro io devo dire, alle 9, siccome andremo fino alle 9:30 anche oggi per due settimane, alle 9 avremo ospite Melita Cavallo, che è il giudice che ha firmato quella sentenza a Roma, no, Federico, che ha dato l'adozione, certo, l'adozione a due donne, e il professor Pessina a discutere di questo. Federico, che devi fare? Ma a proposito, quando è che inizi tu? Io inizio con lunedì prossimo. Inizio con mattino 5 l'8 settembre. E che ci fai quindi sveglio a quest'ora? Ma mi avete svegliato voi, io stavo dormendo. No, Mi è arrivato, squillato il telefono. No, vabbè, dai, non dire così, che lo sapevi. Vabbè, che devi dire di questa storia? Ma guarda, quando parlo di vendetta parlo della tempistica. Io rispetto le idee di Vladimir, però diciamo che anche lei è stata punta nel vivo e credo che sia stata una reazione. Qualcuno potrà giudicarlo un fallo di reazione, una reazione scomposta. Mi sembra che abbia applicato la tecnica dell'occhio per occhio, dente per dente. Esatto, so, Vladimir, ed è stato un colpo basso. Hai fatto un po', ti sei sentita come quando si dice a brigante e mezzo? No, Vladimir. Guarda, io credo che qualcuno si deve anche aspettare che si reagisca. Non è che adesso, perché si fanno queste campagne bieche, queste campagne di fomentare all'odio, e poi ci si sorprende che uno reagisce. L'ho fatto, e devo dire, davanti, quando ci saranno queste campagne così di odio, che fomentano l'odio, continuerò a farlo, lo dico. Vabbè, insomma, diciamo, ha animato un po' il dibattito su questa cosa, però vabbè, come si sa in Italia poi. Comunque, una pagina del giornale, sei contenta? No, io sarei contenta se nei mille giorni di Renzi ci fosse la questione delle unioni civiche. Invece non ne ha parlato, perché... ma ha parlato di tante cose. Ma questa no, non la, a meno... Renzi è stato rottamato dalla decisione del Tribunale dei minorenni di Roma, posso dirlo? Vabbè, perché... adesso anche questa cosa, che però i tribunali fanno le leggi al posto del Parlamento. Ci credo. Ma meno male, davanti... perché poi i problemi... Ma meno male finché fanno una sentenza che piace a te. Quando ne faranno una che non piace a te, dirai... Caro Milan, dato che il problema è serio, vuoi o non vuoi, comunque esistono dei figli di due mamme, sì, esistono, sì. Perché una donna va in Spagna o va in un altro posto con la fecondazione eterologa, fa un figlio o trova altri modi per fare un figlio e lo cresce con un'altra donna. Ho capito, qual ma è sempre problema? Di una mamma. Sì, però qual è il problema? Che c'è la mamma biologica, sì, cioè quella che ha fatto il figlio, e c'è l'altra madre, che crescono insieme questo bambino o questa bambina per anni e anni. Secondo questa legge, se la mamma biologica muore, sì, la figlia gliela possono togliere all'altra madre. Ma per qualcuno è giusto, perché non è biologica, è la compagna. Per il tribunale dei minorenni di Roma, che non è l'arcigay, si è fatta spingere da una cosa di umanità. Federico, dai, forza, contro Vladimir Lutsuna. Secondo me, in un mondo che funziona, in temi così delicati, non serve una legge, ma una sentenza. Ma è chiaro, però giustamente io capisco anche chi dice sì, però se il Parlamento ne parla per 10 anni, 20 anni, 15 anni e non fa niente, poi succede che arrivano le sentenze. Ma comunque, allora, c'è questa malattia nuova, l'annuncite, l'avevi mai sentita, Federico? L'annuncite mi mancava, però lo sono venuto a sapere che tra le varie epidemie c'è anche questa. Sarà l'estate piovosa che ha sparso questi virus. Esatto. Senti, per esempio, ecco, questa cosa, vorrei partire dalla questione degli asili. Allora, io dico... Ma per carità, cioè poi dopo ancora sta storia, ma a te dà fastidio? Ti danno mai del gufo, Federico? A me dà un fastidio. Sì, ogni tanto sì, sai. Ma questa roba che se uno mette un in dubbio... Symbol. No, esatto, ma io mi comprerò un gufo, me lo metterò lì, un animale bellissimo. È un disfattista, bene. Sono un rosicone, no? Allora, sentite questa sugli asili, cosa che tutti speriamo succeda, eh? Un programma che presenteremo quando abbiamo terminato l'analisi. Villa, quella dei mille giorni, mille asili nido. Eccolo, vogliamo, siccome siamo tutti molto innamorati, a Firenze più che a Reggio Emilia hanno lavorato sugli asili, allora sulle nidi e scuole dell'infanzia. Questo è il momento Reggio Children, hashtag di Nonfub, ecco, momento allora, Reggio Children. No. Cioè, dilla questa, faremo mille asili in mille giorni. Cioè, veramente, ma sembra, ma per carità, ma che si facciano questo, però perché lui non resiste quando c'è uno slogan perfetto pubblicitario che ti entra nella testa, lui lo deve dire, e spesso poi prende anche un impegno politico, cioè non è che si limita allo slogan, ma è un impegno ufficiale. Il problema è che poi tutti questi impegni cominciano un po' ad accumularsi, mi sto trasformando in gufo, puntando le penne. Esatto. Vladimir, tu sei una gufa? Un gufo? No. Tra l'altro tutto è relativo, perché per esempio invece la civetta nell'antica Grecia portava bene. È vero, una civetta, non un gufo. Mi sento più una civetta, più una civetta. No, devo dire, non lo so se possiamo considerare come un segno il fatto che tardava, ci sono stati dei problemi tecnici nell'avvio delle slide per la presentazione dei mille giorni, secondo me è stato proprio come dire, ecco qua. Anche le slide si ribellano a Renzi, no. Non lo so, per carità, c'è chi come il Fatto Quotidiano critica, oggi fa un fotomontaggio, tra l'altro orribile, c'è la foto di Renzi ma con la pelata di Enrico Letta, una roba inguardabile, cioè immaginate dal naso in su Enrico Letta e dal naso in giù Matteo Renzi, un OGM, esatto, più che cioè l'accusa è questa, si sta trasformando lentamente, ma speriamo di no. no, in un governo che, come dire, è un po' nel pantano, o forse la volontà di sprint di Renzi iniziale ora va a sbattere contro la dura realtà, Federico, il doversi scontrare con l'impossibilità di fare tutto subito. Siamo passati dal famoso cambiaverso, no? Rivoluzioniamo tutto a passo dopo passo. E questo a molti ricorda la famosa tecnica del cacciavite, no? Per cui Letta però era stato tanto bistrattato, no? Non serve il cacciavite, qui serve una scossa. Però negli ultimi mesi Renzi si sta rendendo conto che governare è un po' più complesso, specialmente da noi. Soprattutto da noi. Io continuo a sostenere che gli italiani siano ingovernabili, ma forse insomma. Poi dopo l'ha detto anche Mussolini e questa cosa mi dà fastidio, insomma. Però vabbè, andiamo al traffico, va, che è meglio. Andiamo al traffico e poi rientriamo. Siamo con Vladimir Luxuria e Federico Novella, tra poco. 24 mattino. Allora, oggi rientriamo, c'è stato un piccolo problema con la segreteria telefonica, ma la recupereremo da domani. Voi mandate ovviamente i vostri messaggi, la stiamo ripristinando. 06 46 52 4492. Capito, Vladimir, risparmiato la segreteria telefonica, che è spesso... Vabbè, ma insomma, la recupereremo da domani, da domani. Allora, vogliamo sentire, ecco, la questione dell'annuncite, sentitelo Renzi che viene accusato di annuncite. Nel momento in cui sei accusato di annuncite, malattia tipica di una parte del ceto politico, noi rispondiamo con l'elenco di una data alla quale siamo evidentemente autocostretti. Ci sono 1000 giorni da qui alla fine di maggio del 2017, e in questi 1000 giorni le proposte che abbiamo fatto sono le proposte che vedranno una concretizzazione o meno. Vabbè, questo Matteo Renzi, ma tu non lo so, ecco, prima nota che è stata criticata da molti sul sito passo dopo passo.italia.it: non si possono lasciare commenti da parte dei cittadini, dice controllate pure, ma scrive per esempio La Stampa, non si possono lasciare commenti. Tu ne lasceresti qualcuno, Vladimir? Cosa scriveresti? Cosa non ti piace dell'inizio del governo Renzi? Ma intanto gli dedicherei la canzone 1000 giorni di te, di me, di Claudio Baglioni, che è una bellissima canzone, eccetera. La seconda è che se lui già parla di annuncite, scusatio non petite, insomma, vuol dire che forse anche lui si sta rendendo conto che lo sprint iniziale, dovuto forse al fatto che è anche un po' ingrassatino ultimamente Renzi, si è un po' rallentato, e quindi forse si sta rendendo conto anche lui che tutto l'entusiasmo iniziale, quella fiducia, anche quel consenso politico che gli è stato dato, è molto a rischio adesso rispetto poi all'attuazione concreta del suo programma, compreso, ripeto, le unioni civili che sono sparite. Eccola là, batte su questo, le unioni civili sono sparite, ma a parte che tanto guarda che l'adozione ai gay non la dà Vladimir, non c'è questo, anche se ci fosse l'unione civile, anche Scalfarotto ha detto l'adozione no, perché bisogna puntare al ribasso, l'Italia non è pronta. Io mi ricordo quando parlo di unione civile la tedesca, dove quello che ha sentenziato il tribunale dei minorenni, cioè la stepchild adoption, era compresa, quindi dicendo quello che ha promesso lui, non quello che... ho in mente io, passo dopo passo. Da geisha però il passo, passo dopo passo, tu hai passi troppo lunghi, a proposito, Vladimir, come va lì nel quartiere con la questione? Meglio. Gli spacciatori se ne sono andati? No? Meglio, no, devo dire la situazione non è risolta, ma è notevolmente migliorata grazie, devo dire, alla presenza delle forze dell'ordine. Ecco, vabbè, insomma, un segnale positivo c'è stato. Ora io vi vorrei fare questa domanda sulla questione dei Marò. Ieri uno dei Marò, la Torre, ha avuto un problema, l'ha avuto un paio di giorni fa per la verità, una ischemia, e la figlia Giulia ha scritto su Facebook, salvo poi cancellare il post, ma sulla rete tutto resta, l'Italia paese che fa schifo, aiutate gli immigrati e invece abbandonate i due militari che erano in servizio per il vostro paese. Ora qui si è scatenato il dibattito su Twitter. Noi, Federico, se non ci dividiamo tra Guelfi e Ghibellini, ma veramente una roba così. E quindi tu sei un Guelfo o un Ghibellino? No, nel senso, no. tu che ne pensi? Insomma, c'è chi subito ha detto: ah, avete ucciso due pescatori. C'è chi dice: hai ragione, Italia paese di M. Vabbè, si continua. Ma io da un lato penso che questo governo, ma anche quelli precedenti, non si sono impegnati abbastanza per riportare a casa i due militari. Dall'altro non sono sicuro che abbia gli strumenti per farlo, perché sul caso Marò l'Italia purtroppo dimostra al mondo quello che pesa all'estero, cioè molto poco, cioè sulle cose che rappresentano, diciamo, l'orgoglio nazionale, no? Cioè, pensate cosa sarebbe successo se fossero due soldati americani. Sì. Sulle cose che contano a livello di immagine internazionale, purtroppo storicamente l'Italia non ha strumenti per farsi valere, e questo pesa, e questo ai familiari, in questo caso delle persone coinvolte, pesa in maniera particolare. Ma tu la capisci la figlia? Vabbè, la figlia, sai, è molto coinvolta anche emotivamente, ha 20 anni. Io la capisco, cioè... sì, non la giustifico, perché quelle parole naturalmente sono eccessive, però la comprendo e non possiamo non farlo. Quanti mesi lontano da suo padre? Due anni e più. Capisci? Vladimir, qui c'è la questione, cioè che effetto ti fa vedere una figlia che dice pensate agli immigrati, invece ve ne fregate altamente di due militari che sono là in India da due anni? Ma credo che tutti noi speriamo che, insomma, ritornino. Magari adesso con la Mogherini come responsabile degli esteri per la Comunità Europea forse qualcosa in più si potrà fare. Certo è che una donna che sa che una figlia che sa che il padre ha avuto un'ischemia, insomma, si preoccupa, si arrabbia e scrive quello. Poi oggi io sono anche la persona meno adatta per parlare di padri, quindi diciamo io mi auguro davvero che la Mogherini possa far sentire un po' più la voce dell'Italia anche in ambito europeo, per fare in modo che, insomma, questi due Marò vengano processati in Italia. Si spera, non lo so, con la Mogherini, ma cosa potrà fare? Ma conta davvero questo ruolo? Bah. No. Ecco, l'editoriale di Federico Novella. Mi piace, sintetico, lapidario. No, ma infatti, ma anch'io penso così, cioè, per carità, ti è spuntata la coda da gufo, ti sono spuntati due occhi due occhi gialli, quelli esatto. Pallati. E anche Civetta, che è un po' più elegante, è proprio gufo. Vabbè. Che dobbiamo fare? Io vi devo salutare. Allora, Vladimir, non sei per nulla pentita. Dai, un caffè con Giorgia Meloni. Fate una riapposta. Guarda, io con Giorgia Meloni ci parlo, mi è anche molto simpatica. Dopo ieri non lo so. No, guarda, quel tweet non era assolutamente contro di lei. Lei è la vittima di quella situazione. Lo stronzo è stato il padre, scusate il termine. Quindi lei non c'entra nulla. Ho capito. Io ho tirato fuori questa storia solo per ricordare una cosa, che... basta pensare che gli omosessuali non siano capaci di fare famiglia, ci sono anche eterosessuali che avrebbero fatto meglio, secondo me, anche a non farle certe famiglie. Vabbè. Il dato di fatto è che, per esempio, io sta storia del Giorgio Meloni non la sapevo, non la conoscevo, e così, come dire, è venuta alla conoscenza dell'opinione pubblica, anche mia, in maniera un po' così. Vi confronterete a Mattino 5. ecco l'invito a Mattino 5 ufficiale da Federico Novella, Vladimir Luxuria e Giorgia Meloni. Perfetto. Grazie intanto, in bocca al lupo ovviamente a Federico per l'inizio della trasmissione di settimana prossima. Grazie a Vladimir Luxuria e alla prossima Giornale Radio. Questo è quanto. Si chiude. Ho finito. Scordatevi di me. Sayonara. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. le 7:17 minuti. Buongiorno cari italiani, eccoci pronti a leggere i giornali in questa giornata che ci porterà in diretta poi fino alle 9:30 a parlare di che temi? Beh, i temi politici. I 1000 giorni di Renzi, passo dopo passo, questo è il nuovo slogan del governo, bando agli annunci, visto che dice Renzi sono accusato di annuncite, e invece passo dopo passo cercheremo di sistemare l'Italia. Che ne pensate? Oggi avremo ospite il responsabile economico del PD, Filippo Taddei, avremo ospite il direttore di Panorama, Giorgio Mulet. E avremo ospite anche questo imprenditore che abbiamo citato ieri, Massimo Blasoni, presidente del Centro Studi Impresa Lavoro, che ha comprato anche una pagina di pubblicità un paio di giorni fa sul giornale e poi provocatoriamente ha detto saremo sistemati quando Renzi avrà 67-68 anni più o meno, visti i dati economici attuali. Parleremo anche dalle 9 alle 9:30 di questa sentenza che di recente ha creato un po' di dibattito, di scompiglio, questa sentenza del Tribunale di Roma che ha dato l'adozione a una coppia omosessuale della figlia. E avremo ospite il presidente del Tribunale dei Minori di Roma, Melita Cavallo, che è la giudice che ha firmato il provvedimento, e con lei avremo ospite il professor Adriano Pessina, che insegna filosofia morale alla Cattolica di Milano. L'adozione per le coppie gay, ne parleremo alle 9, dalle 9 alle 9:30. Ora andiamo a sfogliare i giornali che troviamo in edicola in questo martedì 2 settembre. Intanto iniziamo con i titoli, come al solito le aperture dei giornali. Il Sole 24 Ore apre così: nuova frenata europea, euro ai minimi dell'anno. Draghi vede Hollande, Parigi chiede il rilancio della domanda europea. Anche per Repubblica il piano di Draghi per l'euro debole, Renzi invece dice ora il Jobs Act, cioè il piano sulla riforma del lavoro. La questione Renzi e l'annuncio dell'agenda di 1000 giorni, l'apertura per altri quotidiani come La Stampa, Lavoro, Renzi punta a flessibilità e sussidi, mentre il Fatto Quotidiano mette un orrido fotomontaggio, perché diciamo l'effetto è abbastanza strano, e cioè immaginate dalla faccia, dal naso in su Enrico Letta, dal naso in giù Matteo Renzi. Immaginate la foto, dunque, Matteo Renzi con la pelata di Enrico Letta. Più che Renzi sembra Letta, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Mentre il piano per allargare il bonus, questo è il titolo del Messaggero. Libero invece apre così: la fuffa del premier, i 1000 giorni di Renzi partono con 300 tasse. Il Manifesto invece mette il titolo Millennium, dedicato ai 1000 giorni. Il Corriere della Sera sceglie invece di aprire sulla vicenda Marò. Ora riportare i Marò in Italia, accelerazione per sbloccare il caso, l'ipotesi arbitrato. Questa è anche l'apertura del giornale ed è anche la prima notizia da cui partiamo. Il giornale titola così: la figlia del Marò a 20 anni sveglia l'Italia. È l'urlo di Giulia La Torre dopo l'ischemia che ha colpito il padre in India. Questo paese fa schifo, ha scritto su Facebook, ovviamente innescando il solito dibattito all'italiana. Come scrive Fausto Biloslavo a pagina 3 del giornale, la figlia ventenne si sfoga: questa Italia mi fa schifo. Se è vero, mio padre sta in ospedale, non sta bene, ha avuto una mancanza, ma voi Italia di... E qui segue: insulto, fateli restare lì un altro po', vi preoccupate di portare qui gli immigrati che bucano le ruote perché vogliono soldi, e non vi preoccupate dei vostri fratelli che combattono per voi, alcuni perdono la vita. Complimenti Italia, ci state portando alla morte per tante cose. Ora, come scrive Fausto Biloslavo, tra l'altro la figlia di La Torre, Giulia La Torre, la figlia di Salvatore, ha poi cancellato questo post da Facebook, ma ovviamente, scrive Biloslavo, è un fiume in piena dopo aver saputo dell'ischemia che ha colpito il papà, e sprigiona così la sua giustificata rabbia da ragazzina di 20 anni, tra l'altro tornata da pochi giorni a Nuova Delhi dove ha fatto visita al padre. segue dibattito in Italia, la rete si è divisa, chi ha solidarizzato totalmente con la figlia e quindi di riflesso anche con i Marò, che da 2 anni e più sono in India, chi invece ha detto ma sono accusati di un duplice omicidio. Sta di fatto che il ministro della difesa Roberta Pinotti è appena avuta la notizia del malore, è partita per andare in India. Gli articoli più interessanti sono proprio sul Corriere della Sera, dove Danilo Taino a pagina 9 racconta quella che è la strategia per cercare di accelerare. Certo, questo verbo accelerare dopo 2 anni fa un po' sorridere, ma in ogni caso non si può più perdere tempo, la scelta dell'arbitrato è vicina. Questo è il titolo dell'articolo con la nuova strategia. L'accelerazione che può prendere il contenzioso tra Roma e Delhi sulla vicenda è un elemento importante. L'Italia rifiuta la giurisdizione indiana, sia perché ritiene che quel 15 febbraio i Marò fossero in missione speciale coperti da immunità, sia perché la giustizia indiana ha dimostrato di non essere in grado di istruire un processo capace di dare garanzie di imparzialità e rapidità. L'ultima volta, nell'autunno scorso, si era assicurata una soluzione giusta e veloce, da allora niente è successo. Ora il malore di La Torre può essere considerato il risultato di uno stress cronico provocato dalla situazione non solo di pseudo cattività dei due militari, ma anche di quotidiana incertezza sul loro futuro. Si tratta di una tesi forte che però può essere messa sul tavolo del governo Modi, il governo indiano, per forzarlo ad aprire un canale di colloquio diplomatico che il primo ministro indiano finora non ha escluso, ma che non ha nemmeno attivato. Sarà la situazione, diciamo, anche fisica che può in qualche modo sbloccare questa vicenda, questo lo vedremo. Per rimanere all'estero, però, mi ha molto colpito in questi giorni la seconda notizia di cui voglio parlare, cioè questa misteriosa, per alcuni versi, missione che Matteo Salvini, come responsabile della Lega, insieme ad Antonio Razzi, in questo caso per dire di Antonio Razzi meno misteriosa visto che lui in Corea del Nord è quasi di casa, ecco, questa misteriosa missione che ci fa il responsabile della Lega in Corea del Nord. Per ora non ci sono notizie di prima mano dello stesso Salvini. Sta di fatto che Paolo Bracalini sul Giornale racconta, pagina 10, Salvini tra Pechino e Mosca e la Lega Est. Forse l'opinione di Bracalini in questo triplice viaggio, dopo la Corea del Nord, il viaggio in Cina e in Russia, Salvini tra Pechino e Mosca, l'inedita rete di contatti del Carroccio punta a Putin. Ecco, il mistero si infittisce, che c'ha a che fare la Lega Nord con Putin e con la Cina, contro la quale spesso, tra l'altro, lo stesso Salvini si è scagliato, no? L'invasione dei cinesi. Bah, non so, attendiamo lumi. Lumi che non tarda invece a mandare Antonio Razzi sulla questione Corea del Nord. Vabbè, ma insomma, una delle interviste imprescindibili del giorno di Antonio Razzi è quella di Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 9. La mia missione con Salvini in Corea del Nord a visionare calciatori. A visionare calciatori. Peraltro il calciomercato ha chiuso ieri. Ma Razzi. Vabbè, comunque, abbiamo visionato dei calciatori che in Italia ci sogniamo. I calciatori, chiede Tommaso Ciriaco. Razzi. C'era pure un allenatore italiano. Ma che allenatore? Ma sì, di una città vicino Perugia. Ecco qui il biglietto. Italians Soccer Managers a Corciano. L'allenatore si chiama Dominici. Vabbè, e Repubblica. Sì, va bene, Razzi. Ma Pyongyang. Che ci fate a Pyongyang? E sentite la risposta di Antonio Razzi, senatore della Repubblica Italiana, onorevole. Il maresciallo Kim Jong-un è un amico mio. Insomma, quando viene Razzi, dovete dargli tutto o so cazzi. Antonio Razzi, su Repubblica, onorevole della Repubblica Italiana. Così direbbe Kim Jong-un, quando viene Razzi dovete dargli tutto o so cazzi. E risponde da Pechino. Fa bene forse Michele Serra dedicare la maca su Repubblica a questa visita in Corea del Nord di Salvini e Razzi, che ha ottenuto sul web, scrive Serra, un meritato successo nella categoria Funny Files, cioè quei fatterelli buffi o incredibili che sono cliccatissimi da iperdigiorno come me, tipo la cernia degli abissi che azzanna lo squalo, il biplano che atterra sul tetto, l'attrice che si smaglia una calza scendendo dalla macchina, il gatto che ruba le crocchette a Rottweiler. Per quanto ci si sforzasse di leggere commenti e commentini annessi, era evidentemente impossibile dare una valutazione politica dell'episodio, anzi è impossibile considerarlo un episodio politico. Dalle pochissime immagini diffuse si vedono i due che camminano in Corea del Nord in mezzo a parecchi coreani del Nord e stringono la mano a uno dei più prestigiosi e autorevoli vice leader della Corea del Nord, diciamo uno dei pochissimi fin qui ancora in vita. Pare abbiano consegnato al poveretto una lettera destinata a Kim Jong-un, attuale caro leader, nipote di quel Kim Il-sung, che secondo il suo stile di vita informale amava farsi chiamare stella polare dell'umanità e grand'uomo senza eguali. Insomma, depurato dei suoi aspetti cruenti e feroci di spotismo, il set perfetto per un film di Mel Brooks, sul quale i nostri due si erano avventurati presumibilmente per un provino. E a quanto se ne sa, con ottimo esito. Vabbè, secondo voi vi posso lasciare prima della breve pubblicità, un paio di minuti, con una notizia, senza una notizia, da mani sul volante? Guardate che questa è da mani sul volante in tutti i sensi, perché sapete che è successo a Bari, cari ascoltatori che magari state guidando. Un vigile ha dato una multa a un cittadino di Bari che aveva staccato la mano, una mano, dal volante per grattarsi l'orecchio. Peter Vescapè ride, sono cose che succedono. Peraltro ha fatto ricorso questo signore, ne racconta tutto Libero a pagina 16. Sanzione molesta, i giudici gli hanno dato ragione, hanno sanzionato i vigili. I fatti sono questi, incredibili. Il 3 marzo scorso un 35enne alla guida della sua auto in via Mendola, incolonnato nel traffico a Bari in uscita dalla città verso la statale 100, viene fermato dai vigili urbani che gli contestano questo atto: avere disimpegnato la mano sinistra dal volante, per grattarsi l'orecchio, attenzione, non il naso, l'orecchio. Un leggero prurito lo aveva spinto a quel pericoloso gesto di grattarsi. Multa, ricorso del conducente dell'auto e vittoria di ricorso e sanzione data ai vigili considerati molesti. Da qui il mantra da tenere bene a mente: tenete le mani ben strette, entrambe, sul volante. Milan chi? E allora, eccoci qui a continuare la lettura dei giornali. Riprendiamo dalla vicenda politica del giorno, sicuramente. Ieri Matteo Renzi ha fatto una conferenza stampa per raccontare quello che farà nei prossimi 1000 giorni il governo. È stato creato anche un sito apposito, un sito internet, che è passodopopasso.italia.it, per permettere ai cittadini di controllare. Se andate a vedere, c'è già scritto che mancano 998 giorni, quindi evidentemente i 1000 giorni sono partiti dall'altro ieri. E Renzi, che ha voluto replicare all'accusa di effetto annuncio, all'accusa di malattia di annuncite che gli è stata in qualche modo imputata. L'articolo più interessante della svolta che c'è nel governo Renzi è di Fabio Martini, a mio modo di vedere, in prima pagina sulla Stampa. Così sparisce l'effetto annuncio, scrive Fabio Martini, tutto era cominciato nella notte delle nomine europee. Anziché autocelebrarsi per la nomina di Federica Mogherini sabato notte a Bruxelles, il Presidente del Consiglio si era inaspettatamente proposto con un low profile, negandosi perfino la rituale conferenza stampa. Ieri la replica. Era da mesi che Renzi lo ripeteva quotidianamente: il 1° settembre sarebbe partito il programma dei 1000 giorni. E dunque ecco la novità: il Presidente del Consiglio sospende, almeno per un po', l'effetto annuncio. La sequenza eloquente, dopo le docce gelate di agosto, il calo oltre ogni attesa del PIL dei consumi, lo sfottò della copertina dell'Economist, le crescenti critiche sui troppi annunci, è come se si fosse determinato un cortocircuito comunicativo in coincidenza con uno sketch mal riuscito, quello del carretto dei gelati fatto entrare dentro Palazzo Chigi per esorcizzare la vignetta dell'Economist, un numero che sulla rete ha riscosso pochi applausi e molti strali, soprattutto perché ha finito per stridere con un contesto socio-economico sempre più ansiogeno per una parte dell'opinione pubblica. Dunque, a partire da qui, racconta Fabio Martini, basta l'effetto annuncio, meglio puntare sui risultati dopo gli ultimi inciampi comunicativi, ultimo dei quali proprio l'effetto dello sketch col gelato, che secondo Fabio Martini sulla Stampa anche Renzi ha capito non ha funzionato. Sta di fatto che per qualcuno, per esempio per il Fatto Quotidiano, fa un po' sorridere che per dire basta l'effetto annuncio si faccia una conferenza stampa, e cioè un annuncio di fatto. È così che il Fatto Quotidiano mette in prima pagina questo fotomontaggio dai risultati un po' macabri dal punto di vista estetico, per carità. E cioè, come ho detto, mettere in prima pagina una foto di Matteo Renzi dal naso in giù ed Enrico Letta dal naso in su, più che Renzi sembra Letta, questo è il titolo. Insomma, l'effetto estetico, ripeto, è quello che è. La lettizzazione del primo ministro, racconta Stefano Feltri a pagina 3 del Fatto Quotidiano, dietro le nuove comunicazioni del governo c'è l'incubo del discorso programmatico che il predecessore Letta usava per tenere a bada i suoi. Sta di fatto che l'annuncio forse più interessante, come scrive il Sole 24 Ore con Barbara Fiammeri, Renzi lo ha fatto sulla questione del lavoro. Il Jobs Act, sapete che è stata una delle prime riforme promosse da Renzi, poi si è incagliata, è stata rinviata, ma è una delle riforme sulle quali il governo promette di accelerare. E allora il titolo è Renzi sul lavoro modello tedesco. Il premier anticipato, racconta Barbara Fiammeri, sono a pagina 7 del Sole, che in Parlamento presto si presenterà per illustrare le tappe del cronoprogramma con il Jobs Act. Anzitutto, non è un caso se Renzi pone l'accento sulla riforma del lavoro all'esame del Senato, che sarà approvata il prima possibile, vale a dire entro l'anno. E poi c'è stato questo riferimento alla Germania. Basta criticare la Germania sulla riforma del lavoro, per esempio la Germania è un modello. E allora il Messaggero fa un interessante articolo che, perché quando io ho letto modello Germania ho detto, beh, ma insomma, quanti in Italia capiscono cos'è il modello Germania? A pagina 4 del Messaggero, eccolo qui, il modello tedesco. Dal sussidio universale fino ai mini job, così Berlino ha vinto la disoccupazione. Da noi è in continua ascesa, da loro in direzione è opposta. La disoccupazione in Italia negli anni della crisi è praticamente raddoppiata, in Germania si è dimezzata. Tra il 2007 e il 2013 il tasso di disoccupazione in Italia è passato dal 6,1% al 12,2%. La Germania è partita dall'8,7% del 2007 e è scesa fino al 4,9% del luglio scorso. Il governo di Berlino nel 2003 ha messo mano alle regole del suo mercato del lavoro e del welfare. Lo ha fatto con 4 interventi elaborati da Peter Hartz, ex consigliere di amministrazione della Volkswagen, cooptato dal governo Schröder. Un passetto e un pezzetto alla volta, passo dopo passo, direbbe Renzi, ha costruito un puzzle in cui la flessibilità delle forme contrattuali, sia in entrata che in uscita, si sposa con un sistema di ammortizzatori sociali che dà una mano al disoccupato non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello della ricerca di un nuovo posto di lavoro. È possibile in Italia? Questa è la domanda. Difficile, scrive il Messaggero. Basti pensare al sistema degli ammortizzatori. In Germania è davvero universale il sostegno economico. Viene dato sia a chi perde il lavoro, sia a chi semplicemente non lo trova. Nel primo caso c'è l'indennità di disoccupazione vera e propria che dura in media 12 mesi, per il 60% dell'ultimo salario netto, Nel secondo c'è un sussidio simile al salario di cittadinanza, denominato sicurezza sociale di base, che può arrivare a 374 euro al mese, ai quali si aggiungono aiuti economici per affitto, studio, riscaldamento, spesa alimentare. Insomma, un sistema costoso che si regge sul fatto che lì i centri per l'impiego funzionano e si fonda sul cosiddetto principio di condizionalità, cioè chi riceve il sussidio deve seguire corsi di formazione e non può rifiutare le offerte di lavoro successive. Questo è il modello tedesco, in estrema sintesi, per il Messaggero, a cui punta Matteo Renzi. E, tra l'altro, a parte questi annunci, i dubbi sono sempre sui soldi, e questo è il tema su cui si concentrano a pagina 3 il Corriere della Sera, con il fabbisogno industriale, cioè il fabbisogno dello Stato, non industriale, il fabbisogno dello Stato, cioè la quantità di risorse necessarie alla copertura finanziaria del bilancio. Servono 16 miliardi. Questa è la cifra che viene messa sul Corriere, viene anche spiattellata brutalmente a pagina 3 del Secolo XIX con l'articolo di Michele Lombardi, con tanto di titolo Padoan frena il Premier. Dobbiamo trovare 16 miliardi. Ora, dove trovare questi 16 miliardi, a parte le ironie col fatto che i miei due urini sono sempre lì a disposizione, ma di più non posso dare? Per la verità, c'è un signore che risponde al nome di Mr. Forbici, vale a dire commissario della Spending Review, vale a dire Cottarelli, che ha detto: guardate, 500 milioni di euro si possono trovare facilmente, basta chiudere 2000 partecipate nei prossimi tempi. I conti di Cottarelli sui risparmi sono questi: in un anno si recuperano 500 milioni tagliando 2000 partecipate. Ora, la ricetta sempre c'è, sembra lì a portata di mano. La domanda che si fanno tutti gli italiani è: ma perché diavolo non si fa? Se c'è una persona che ha trovato una ricetta, e questa persona è stata scelta, per la verità, dal precedente governo per indicare come fare questi tagli. Non so, giro la domanda a Mauro Meazza. Caro Mauro, buongiorno. Oh, buongiorno, ma questo tono così... Ma perché voglio essere pacato e sereno, perché ci sarebbe motivo per arrabbiarsi. Perché, se Cottarelli dice si possono recuperare 500 milioni così, non si fa? Ma c'è la ricetta, ma non è detto che ci sia il cuoco, e quindi vediamo, aspettiamo l'ingrediente. Un attimo. Non precipitiamo, no? Non ingredienti, più o meno li abbiamo capiti. Sì. Guardiamo infatti sulla tabellina che accompagna il pezzo di Marco Rogari oggi. Effettivamente, qui facendo una 7 mosse, mi pare, se non conto male, o poco di più, comunque si ridurrebbero le partecipate a 1000, che dovrebbe essere un discreto sollievo così. Poi bisognerà vedere, perché come al solito ci saranno invece anche delle società, sicuramente, per quanto sicuramente piccole, che potranno essere... Ricordiamo, utili, sono circa 7.000, adesso forse anche di più, 8.000. Ma sono stato più attratto, guarda, anziché dalle 2.000 partecipate, che noto con piacere hanno stimolato la tua attenzione, dal contributo di Santilli, di Giorgio Santilli, che lì accanto mi spiega che cosa sta succedendo con il bonus affitti. Sai, questa cosa per cui compri casa, però poi la dai in affitto, ti fanno uno sconto fiscale. Annunciato nello Sblocca Italia, che è il provvedimento appunto esaminato venerdì, però siccome si sta finendo di scriverlo, allora lì ci sono un po' questi sconti sull'edilizia che vanno e vengono, sono molto mobili nonostante trattino di immobili. E quindi, insomma, lo sconto del 65%, dell'IRPEF il 50% e quant'altro, e tutto si sta ragionando e lavorando, riferisce Giorgio Santilli oggi sul Sole. Hai visto che comunque ci sono 699 decreti ancora da scrivere? Non so. Ecco, questo è un tanto per dirti, insomma, continuiamo ad avere. Leggo che solo per la riforma della pubblica amministrazione credo ce ne vogliano 77 da approvare, giusto per la riforma, quella riforma Madia. Esattamente. E poi abbiamo anche, insomma, con i decreti man mano vanno in scadenza. Noi abbiamo calcolato, ne parlavamo ieri, ce ne sono 51 che vanno a scadenza prima della fine dell'anno e poi naturalmente continuano ad aumentare come per il caso della riforma Madia, i decreti da scrivere, perché aumentano le norme che vengono scritte, le norme madre, e quindi anche i figliuoli che poi vengono però a volte abbandonati al loro destino, per così dire. Senti, se vuoi confortarti o vuoi dei lumi, insomma, sappi che oggi sul sito del Sole puoi trovare l'ebook che raccoglie tutte le puntate della Guida Famiglia, intanto che tu eri in ferie da altri, no, non io voglio no, dire, certo. Altri colleghi invece hanno lavorato a questa Guida Famiglia, che adesso abbiamo raccolto tutta in un ebook che sta sul sito. Bene, sul sì vedi a parlare male di me, caro Mauro, a parlare male delle mie ferie, vedi cosa succede, che i telefoni cascano, o meglio le linee dei telefoni cascano. Vabbè, che dobbiamo fare? L'abbiamo recuperato? Sì, vedi, caro Mauro, parla male delle mie ferie e poi cascano le linee telefoniche. No, sì. Mi dicono che, ma è una combutta tra te allora e il tecnico, chi c'è, l'Alpino? Sì, perché, c'è Peter Bezzapena. No. Cari saluti all'Alpino che rende possibile tutto questo. Ecco. Però so che è una combutta perché lui spesso ti tiene bordone, come si diceva una volta. Senti, prima che il tempo tiranno ci condanni a chiudere questa telefonata, ti volevo dire occhio al semaforo, perché la Cassazione ha detto che anche se il giallo dura meno di 4 secondi, sì, e tu quindi finisci per passare col rosso perché hai sbagliato il tempo, la multa va bene lo stesso, bene. Sì. Dove ho letto tutto questo? Vediamo se sei secondo caldo me, già. Secondo me su Norme e Tributi. Bravissimo, sulle pagine di Norme e Tributi oggi su Sole 24 Ore. E perché te lo racconto proprio ora? Perché sta per arrivare? Il traffico. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan, sempre l'ascolto. Grande Gabibbo, ecco, per concludere la questione Cottarelli, mentre Cottarelli suggerisce quasi quotidianamente delle ricette per tagliare i costi, ce n'è un'altra però sempre da Cottarelli che forse non farà molto piacere a coloro che stanno ascoltando. È una ricetta che è stata proposta già un po' di tempo fa ed è quella che viene ribadita per risanare i mezzi di trasporto pubblico: aumentare gli abbonamenti, aumentare i biglietti. Soprattutto nelle grandi città di tram, bus, metropolitane, perché sono gli abbonamenti inferiori a quelli di molti paesi europei come media. Il titolo per esempio è di Libero a pagina 3, il piano Cottarelli vale 500 milioni ma fa aumentare i biglietti dell'autobus, questa è la soluzione sempre più comoda. Dal punto di vista invece economico-aziendale c'è stata una novità che per la verità era annunciata da tempo, ma ieri si è concretizzata, una delle maggiori imprese italiane, vale a dire Luxottica, ieri ha avuto una svolta importante, vale a dire l'amministratore delegato di Luxottica, Andrea Guerra, non fa più parte dell'azienda dopo 10 anni di collaborazione, si era vociferato a lungo anche di una rottura strategica tra il presidente e fondatore Luxottica, vale a dire Leonardo Del Vecchio, il suo amministratore delegato, dopo la decisione di separare le proprie vicende professionali. Leonardo Del Vecchio oggi parla con Il Sole 24 Ore, viene intervistato da Alessandro Plateroti in prima pagina e racconta come, scrive Plateroti, raggiunto telefonicamente a Londra mentre è in coda alla biglietteria della stazione ferroviaria, uno degli uomini più ricchi e più potenti dal punto di vista economico-industriale d'Italia e del mondo, dice: ho deciso prima, molto prima degli ultimi tempi, a cavallo tra la fine del 2013 e l'avvio dell'anno, quando Del Vecchio ha respinto la mia idea di rientrare personalmente nella gestione. Fa capire Del Vecchio che c'entra tutto, anche la questione dei figli. Guerra ha risposto di no alla mia decisione di rientrare in azienda, è una persona intelligente, ha capito benissimo che a quel punto la sua permanenza in azienda era diventata impossibile. Ora dovrò essere molto chiaro con la comunità finanziaria, ma è normale che alla mia età, quando si arriva a 80 anni, bisogna pensare ai figli. Scriva pure, dice Del Vecchio, che i piani di successione hanno avuto un ruolo determinante nelle decisioni che ho preso con Guerra. Invece Del Vecchio smentisce che ci siano stati dissidi con Andrea Guerra per l'accordo firmato tra Luxottica e Google. È una roba da non credere, risponde a questa domanda Del Vecchio. Pura fantasia. Con Guerra ho condiviso 10 anni di crescita straordinari, di cui non posso che dare il merito alla sua bravura. Non ho mai interferito sulla gestione delle strategie. Pieno accordo su tutte le scelte, dall'intesa con Google all'acquisizione in Italia all'estero e i famosi piani di stock option. I motivi della rottura che ho letto finora sui giornali sono totalmente lontani dalla realtà, sono pura fantasia. L'accordo con Google ha un valore strategico per il futuro di Luxottica. E poi, per quel che riguarda di Andrea Guerra e del suo futuro, dice: lo vedo molto bene, molto molto bene in un'azienda come la Armani. Tra l'altro Guerra credo che abbia preso come liquidazione per fine rapporto 43 milioni di dollari, di euro ovviamente. Allora, altre notizie di cronaca che mi hanno colpito sono queste. 5 regioni seguono la Toscana via all'eterologa senza la legge. La fecondazione eterologa, che è vietata in Italia ma che è stata consentita con alcune sentenze, perché questo è un paese in cui, come sappiamo, il Parlamento le leggi non le fa e quindi intervengono delle sentenze di giudici a normare. Ebbene, dopo la Toscana, anche altre 5 regioni, e sono Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto, hanno deciso di dare il via alla fecondazione eterologa. Margherita De Bacca ne parla a pagina 19 del Corriere della Sera, racconta invece che Lombardia e Campania sono contrarie perché aspettano la nuova normativa nazionale. E quindi decidono di non avventurarsi senza la normativa nazionale. E questa invece è invece la decisione presa da altre regioni, va in un altro senso. Vi segnalo anche che Totò Riina continua a parlare, o meglio, continuano a uscire stralci delle conversazioni, quindi delle intercettazioni ambientali di Totò Riina con il suo compagno di cella Alberto Lorusso durante le loro passeggiate a Opera. Parlano, mentre facevano queste passeggiate, tutti questi colloqui sono stati registrati dagli inquirenti. Allora, che cosa esce oggi sui giornali? Gli insulti di Riina al capo dello Stato napolitano, ma la notizia forse che più colpisce sia Repubblica che il Corriere della Sera è: Riina intercettato in carcere, Mancino non trattò con me. Sapete che Mancino era il ministro dell'interno quando ci fu anche la vicenda dell'uccisione di Borsellino. È questo uno degli elementi che è oggetto di un processo alla Corte d'Assise di Palermo, nella quale si ipotizza la possibilità che uomini delle istituzioni abbiano chinato la testa di fronte alle minacce del capo di Cosa Nostra. Ebbene, questa è l'intercettazione ambientale con Riina che dice: ma che vogliono sperimentare che questo Mancino trattò con me? Loro vorrebbero così, ma se questo non è avvenuto mai... Parola di Totò Riina. Credendo a queste parole, dunque, resta da dire che Nicola Mancino, allora ministro dell'interno, non avrebbe mai trattato con la mafia. Queste le parole del capo dei capi della mafia. Va bene, siamo al momento conclusivo? Ebbene sì, siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi lo troviamo in prima pagina del Secolo XIX. Dove ci si arrovella per un tema fondamentale, una svolta nel mondo della botanica. Il nome della cozza non si cambia, ma il latino vacilla. Ma dico, ma che è? Ma che è? La notizia sta facendo il giro del mondo in questi giorni, la descrizione di nuove specie botaniche, piante, funghi e alghe, non deve essere più fatta in latino, ma in inglese. Ah, cioè non c'è più il Boletus. Il Boletus Satanas. No, come si chiamava? Vabbè, ce ne faremo una ragione. Amici del secolo, ricordate anche voi che la carta costa. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. E sì, insomma, sentendo parlare ieri Matteo Renzi e i suoi mille giorni, ci è venuto in mente il successo che ha reso celebre l'Europe, no? The Final Countdown, i mille giorni che dovrebbero portarci al maggio del 2017, passo dopo passo, per usare il nuovo lessico renziano, a una svolta per l'Italia. Il sito è questo: passodopopasso.italia.it. Che cosa prevede il nostro lavoro? Countdown, oggi è il giorno zero, ne mancano mille. Ogni giorno sul sito passodopopasso.italia.it ci saranno elementi nuovi, elementi che verranno dall'attività parlamentare, dalle scelte dei singoli ministri, ma anche dal dibattito dei cittadini. E allora, ce la farà Renzi, ce la farà il governo? È quello che al netto di gufi, rosiconi, questa storia insomma di chi remerebbe contro, io credo che non ci siano italiani, lo ribadisco, l'ho detto anche ieri, che remino contro, nessuno rema contro. Se non proprio ovviamente quelli che vogliono vivere male, vogliono lasciare un paese ai propri figli disastrato. Vabbè, i masochisti ci sono dappertutto, per la verità, ma non appartengo io, e credo pochissimi italiani appartengono a questa categoria. Tutti vogliamo che l'Italia ce la possa fare. Allora 800 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, parliamo con chi. Intanto gli ospiti che ho scelto, a cominciare da Filippo Taddei, per l'aspetto economico, perché sono i soldi poi quelli che contano. Filippo Taddei, buongiorno, responsabile economico del PD, ben ritrovato. Buongiorno. Saluto anche il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. Buongiorno direttore, eccoci qua. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Perché i soldi sono quelli. Poi alla fine senza soldi non si fa nulla. E allora se si deve amministrare un paese. E allora, visto che sui giornali raccontano, per esempio, il Secolo XIX, che il ministro dell'economia Padoan sta facendo incontri anche ieri con il premier Renzi, sempre più serrati, e il ministro Padoan dice: freniamo un attimo, servono per esempio per il fabbisogno dello Stato 16-17 miliardi di euro. Allora Filippo Taddei, io partirei da qui perché ci aiuti a capire con quali risorse l'Italia ce la può fare. Intanto mi ha colpito molto una cosa: c'è un signore che si chiama Carlo Cottarelli che ogni giorno snocciola una ricetta, un'idea, l'ultima della quale è tagliare 2000 partecipate per ottenere 500 milioni di euro l'anno. Sarà poca cosa, briciole, ma comunque sono soldi. Perché non si fa o si può fare? Dunque, il ruolo di Cottarelli è esattamente fare quell'intervento di revisione della spesa pubblica selettivo di cui si parla da molti anni in questo paese, che è l'unico modo peraltro per affrontare quegli sprechi, le inefficienze che i cittadini osservano. Quindi le due l'una: o decidiamo che sulla spesa pubblica non si fa una battaglia di religione, ma si guarda effettivamente dove ci sono sprechi, e quindi ogni giorno affrontiamo una nuova misura, un nuovo intervento che effettivamente sia selettivo, cioè scelga, è una cosa che è esattamente l'opposto dei tagli lineari che abbiamo visto fino a ieri, oppure gliela diamo su e rinunciamo. Il problema è che se rinunciamo a fare questa revisione della spesa, non è solamente che perdiamo la battaglia per la moralizzazione pubblica dello Stato, per il suo efficientamento, ma perdiamo soprattutto la possibilità di fare quello che ci siamo detti di fare, che è rimettere questo paese al servizio del lavoro, cominciando proprio dalle tasse. Non finendo lì, ma cominciando dalle tasse che noi imponiamo sul lavoro. Ecco, se noi non facciamo questa revisione della spesa selettiva, non c'è alcuna possibilità di sostanziare quello che abbiamo deciso di sostanziare, cioè il taglio di 80 euro e le riduzioni fiscali che verranno. Ma anzi, l'alternativa, anziché la riduzione delle tasse per sempre come i diamanti, quella per gli 80 euro, è di fare un po' l'opposto e di assistere nuovamente a un balletto modello IMU. Sì. L'IMU è il modello di riduzione fiscale senza coperture, cioè senza intervenire contestualmente sulla spesa corrente. L'abbiamo visto, gli italiani hanno visto questo balletto sinceramente, poco edificante, no? 2012 si entra l'IMU per salvare il paese dal governo Monti, 2013 sulla base di un accordo con Silvio Berlusconi alla bella e meglio si abolisce l'IMU con delle coperture straordinarie che puntualmente nel 14 non ci sono e che quindi portano a reintrodurre l'IMU. Che torna a un, in realtà producendo un gettito inferiore rispetto al 2012, a prescindere, diciamo, contrariamente a quanto spesso si legge, però e comunque è tornata l'IMU. Ecco, sugli 80 euro noi non faremo tipo l'IMU, li abbiamo levati e adesso staranno lì per sempre. Però Taddei, quello che non si capisce è come si debba passare alla fase esecutiva di questo taglio della spesa pubblica, perché le ricette ci sono, le ricette vengono snocciolate, cosa manca per farlo? Non manca in realtà assolutamente nulla, è un problema di determinazione politica. Lo strumento, io vorrei proprio offrirlo con la massima chiarezza alla sua attenzione e a quella dei radioascoltatori, è la legge di stabilità, cioè da qui alla legge di stabilità voi sentirete, verranno discusse, come è giusto che sia, proposte al dibattito pubblico, una serie di interventi che poi entreranno tutti nella legge di stabilità, come ricordava. Quindi un mese di fatto. Un mese, sì, il 15 ottobre entra, sì, in sala, un mese e mezzo. In questi giorni, ogni giorno per noi è importante in questo periodo. Quindi se lei non mi dica un mese. No, 45 giorni, non me ne tolgo 15, se no dobbiamo partire da 975. Esatto, ed è un disastro. Lei sa perfettamente che il Presidente del Consiglio è molto attento alle date. Quindi stiamo appunto a questo è il momento di discussione di tutti quegli interventi, ripeto, non un po' alla bella e meglio, non per sparare nel mucchio, ma selettivi, che poi avranno nella legge di stabilità la propria sintesi per fare quell'intervento che poi è l'unico intervento sulla spesa corrente necessario per stanziare gli 80 euro. Vabbè, diciamo qui, no, ma è chiaro che già dei 1000 giorni, e vorrei su questo coinvolgere il direttore di Panorama, Giorgio Mulet, già direttore, abbiamo tra 45 giorni una prima scadenza allora sulla legge di stabilità. Io vorrei capire però intanto se politicamente ti piace l'idea di un Matteo Renzi che dopo una partenza un po' turbo forse si è convinto che sia migliore la strategia del passo dopo passo. Io spero che sia convinto, ma per quello che dicevi prima, cioè per il bene del Paese e per il bene di tutti noi. In realtà io penso che la mossa dei 1000 giorni sia nel più classico vetero stile della propaganda. Il sito dei 1000 giorni serve anche ad andare un po' contro i giornali che ultimamente si sono un po' svegliati e hanno cominciato a cantarle i giornaloni, dico, al governo Renzi senza risparmiargli nulla. Se poi si va a vedere i primi contenuti del 1000 giorni, del passo dopo passo, c'è oggettivamente una sorta di, non dico disinformazione, ma quasi, perché se si dà come affermazione apodittica che gli occupati sono aumentati da febbraio a luglio, si dice agli italiani una enorme fesseria, perché in realtà ci ha detto l'Istat il 29 agosto che abbiamo perso 1000 posti di lavoro al giorno da luglio e quindi i disoccupati sono cresciuti così come i non occupati. Le scadenze, tu parlavi di scadenze, io come tutti gli italiani abbiamo delle scadenze di qui a qualche giorno, cominceremo a pagare la Tari, dovremo pagare la Tasi, la Tasi è la riedizione dell'IMU, significa che gli italiani comunque quest'anno dovranno pagare a Milano una media di 550 euro, a Torino 660 euro e sono soldi di tasse in più rispetto allo scorso anno. Qui ci si concentra sugli 80 euro, con gli 80 euro non ci pagheremo forse neanche una rata di un mini acconto di una di queste tasse. Sono arrivati in questi giorni, cominciano ad arrivare gli acconti della Tari per case di 100 metri quadrati a Milano, sono oltre 150 euro, insomma non varierà rispetto all'IMU di 2 anni fa, però la sostanza è la stessa, cioè abbiamo un aggravio fiscale rispetto al 2013 tutto sulle spalle degli italiani. Cioè l'idea che invece di attendere 1000 giorni gli italiani abbiano delle scadenze un po' più stringenti. Sì, però politicamente non certo Mulè è la persona che può consigliare Matteo Renzi, forse politicamente non siete neanche dalla stessa parte. Però che cosa dovrebbe fare un presidente del Consiglio? Guarda, posso dire, io in questo caso davvero politicamente mi interessa poco. Io dico che ci vuole coraggio. Il coraggio non è quello che si dà a Matteo Renzi nel dire i 1000 giorni o cambio l'Italia. Il coraggio è fatto di atti concreti. Quando si richiama il modello tedesco si prende una grandissima responsabilità. Sul perché lavoro. Si richiama, esatto, non è soltanto sul lavoro, vedi, è proprio sulle riforme. Quando Schröder nel 2003 con una Germania piegata decide di fare le sue riforme, lo fa sfidando l'impopolarità e infatti prende una batosta, c'è cioè sindacati, c'è cioè lavoratori in piazza. Significa governare non con il pallino del consenso, ma governare. Chi governa non cerca, non si cura del 40% che si è mantenuto dei sondaggi, si cura di curare in profondità questo paese. Significa, scusami, che io avrei preferito non il sito dei 1000 giorni. Volete fare 1000 giorni? Ditemi giorno dopo giorno cosa tagliate degli 800 miliardi di spesa pubblica. Allora, questo è un tema fondamentale. Non so, Filippo Taddei, se ieri ha avuto modo di leggere ciò che Giuliano Ferrara scriveva sul Foglio, che è un po' anche quello che Mulè ci sta dicendo ora, e cioè il rischio è che per non scontentare quel 40% che ha un consenso popolare, un mandato elettorale forte che ha ricevuto Matteo Renzi senza precedenti negli ultimi 20 anni da parte degli italiani, è che non si facciano quelle misure che necessariamente devono essere impopolari. Per esempio, prendiamone una. Ieri Mario Adinolfi qua ha detto che bisognerebbe toccare le pensioni sopra i 3.000 euro, oppure avere la forza di dire quel sistema economico che ci ha permesso di dare quelle pensioni a gente che ha lavorato non c'è più e quindi bisogna contribuire tutti. È una mossa impopolare, ma sarebbe pronta a farla secondo lei il governo Taddei? Guardi, mettiamo in fila tutte le informazioni, perché secondo me stiamo un attimo scavallando, stiamo perdendo un po' di vista i numeri complessivi. Sulle pensioni il Palazzo Chigi ha già detto che non ci sarà alcun intervento. Questo può scardinare l'impianto complessivo di intervento selettivo sulla spesa pubblica che abbiamo detto, che abbiamo impostato? La risposta è no, ma non perché dovete credere a Filippo Taddei, che fa il responsabile economico del PD e insegna l'università americana, ma dovete credere a Carlo Cottarelli. Guardate quelle famose slide rubate di marzo, vi davano una specie di un dettaglio molto preciso di intervento sulla spesa pubblica, in cui se voi guardate i numeri, anche al netto dell'intervento pensionistico ci sono la possibilità di fare interventi per ottenere i risparmi necessari a sostanziare quei 15-16 miliardi di tagli alla spesa di cui ha parlato Padoan, che sono necessari per gli 80 euro, clausole di salvaguardia di Letta e altre amenità. Ora, questo lo dico non perché quei 15-16 miliardi siano tagli che ti rendano particolarmente popolare, perché i cittadini italiani devono sapere che ogni volta che noi interverremo sulle partecipate di cui parlava Cottarelli, sulla spesa per acquisto di beni e servizi, noi grattiamo via extra profitti, rendite. C'è dubbio, toccare la spesa pubblica anche di un euro si scontenta qualcuno, esatto, ma qui la sensazione è che bisogna, e come dice anche Mulè, che scontentare un po' più di persone, cioè fare le riforme anche con lacrime e sangue, se no non se ne esce. Io capisco, questo però è ancora, siamo a livello di processo alle intenzioni. È giusto dubitare, il vostro lavoro fate benissimo a dubitare, io lo apprezzo e lo rispetto, però qui siamo al dubbio. Io vi dico, aspettiamo il 15 ottobre e poi vediamo se effettivamente c'è questa finanziaria, come posso dire, pane e rose per tutti, o invece c'è una finanziaria che fa tagli selettivi. Ci sono alcuni aspetti che però vi invito a considerare sotto il profilo della credibilità. Il Partito Democratico, che è il principale, diciamo, propulsore di questo cambiamento, sta facendo a sua volta degli sforzi piuttosto radicali per organizzarsi, per fare fronte a se stesso alle difficoltà di bilancio che ha. Faccio solo presente che noi siamo, sono stupidaggini, mi rendo conto, però simbolicamente almeno ti danno qualcosa. Siamo la prima segreteria a costo zero, io stesso lavoro gratuitamente da 9 mesi, lo facciamo perché comprendiamo che è un momento in cui bisogna anche dare quell'esempio di sacrificio, non dico non per particolare protestantesimo, ma per proprio dare il senso, la tara di quanto sei determinato. Lo fai su te stesso per dimostrare che lo fai anche sugli altri. E proprio perché lo fai su te stesso e vuoi dimostrare di farlo anche sugli altri, allora mettiamo in fila anche le tutte le informazioni che ci sono disponibili. Io sinceramente sono un po' preoccupato qua, se cominciamo a impostare il dibattito confondendoci sui numeri. Diceva Mulè prima, gli occupati, il governo si concentra sul fatto che ci sono stati 100.000 occupati in più da febbraio a luglio, invece sono stati meno 1.000 occupati in meno ad agosto. Sì, ad agosto. Il che vuol dire che 100.000 occupati in più fino a luglio, meno 36.000 occupati ad agosto, fa un bilancio di 66.000 occupati in più. Ora, non voglio dire con questo che tutto va bene, però i numeri sono questi. Diamo la dimensione dei numeri, scusi, anche sulla TASI, è sinceramente irritante questo balletto. Stiamo ai documenti ufficiali, guardi, lo dico per lei, lo dico per Mulè, ma lo dico per i cittadini tutti. Andate sul sito del Dipartimento delle Finanze, guardate il documento al 31 luglio, abbiamo lì i dati simulati di tutti i comuni che hanno deliberato la TASI, che sono 2.138. Si spende meno dell'anno scorso? Ed è il 10% in meno rispetto al 2012, che è il confronto rilevante, 10% in meno. Ora, io mi rendo conto che ci sono dei cittadini italiani che pagheranno di più a Milano rispetto a Torino, però io vivo a Bologna e noi li paghiamo di meno. Sì, sono anche scelte dei comuni. Ma non solo sono scelte dei comuni, sono anche scelte dei comuni che se lo possono permettere. Sono comuni più virtuosi, comuni meno virtuosi. Torino è una situazione finanziaria che non è quella di Bologna e i cittadini di Torino ne pagano le conseguenze. Mi dispiace, ma questa si chiama responsabilità e si chiama federalismo fiscale. Allora, facciamo così, ripartiamo dopo la pubblicità con Giorgio Mulè e con Filippo Taddei. Io ripeto quello che ha detto Mulè, e cioè l'idea del coraggio di fare delle riforme impopolari, e come ha detto Taddei si possono anche non toccare le pensioni, parola di Cottarelli, e trovare quei 16-17 miliardi che servono per rifinanziare per esempio gli 80 euro. Io credo, ma non so, voglio ripartire da Mulè su questo, a capire se è anche il vostro parere, ovviamente cari ascoltatori, che forse si potrebbero toccare anche le pensioni, perché no? Se è vero che siamo tutti in una barca che rischia di affondare, come scrive l'Economist, forse è tempo di guardarsi allo specchio e dire bisogna fare davvero tutti i sacrifici come hanno fatto in Germania per risollevarsi. 24 mattino. Allora, eccoci qui, Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Che dire, insomma, mi sembra di non intravedere, capire quelle scelte coraggiose che vorresti, però sono scelte veramente impopolari che dovrebbe fare. Non sono impopolari, secondo me. Adesso soltanto una notazione, ma davvero senza nessuna polemica, proprio per i numeri. Guardiamolo il sito a cui faceva riferimento il professor Taddei e guardiamo le proiezioni. Vediamo queste città che sono brave a far diminuire l'IMU nel 2012, che è una tassa nuova rispetto allo scorso anno. Firenze, che è la capitale del buon governo, quest'anno pagheranno di più di TASI, pagheranno 18 euro quelli che hanno una casa in più, quindi 453 euro, quelli che hanno 70 metri quadrati pagheranno 179 euro, con un aggravio di 40 euro. E cito soltanto Firenze, per carità di patria, risparmio Lecco, Udine, Brescia, tanti altri comuni in cui sarà una mazzata vera e propria, questo sui numeri della TASI. Per quanto riguarda il resto, la spending review, ma ci sono degli atti concreti, bisognava tagliare quell'enorme spreco che sono le centrali di acquisto, 34.000, vado a memoria, mi posso sbagliare, dovevano essere ridotte a 34. Il governo aveva fissato una data entro il quale questo spreco, questo buttare via i soldi, doveva finire. La data era il 31 luglio. Sapete che è successo? Che il governo, insieme all'ANCI, hanno fatto un documento in cui hanno rinviato tutto al 2015. Allora, questo non è serio. Questo è il contrario della serietà. Questo significa fare davvero gli annunci e poi continuare a vendere, come dire, così, i proclami e non fare quello che bisogna fare. Fare la roba coraggiosa, le pensioni certamente, sì. Ma non significa fare un intervento su quello che già esiste. Un governo serio programma i 1.000 giorni dicendo bene, dal prossimo anno le cose cambiano così, non vada a colpire chi già ha avuto i contributi di solidarietà, le mancate rivalutazioni, chi seguendo la la legge e versando i contributi che la legge italiana diceva, adesso non ha nessuna altra forma di reddito da poter compensare. Cosa facciamo? Andiamo a insistere su di loro? Ci sono enormi sprechi. Cominciamo a vedere le penne, le telefonate, tutto quello che i comuni e gli enti locali potrebbero fare. Sulla questione delle centrali d'acquisto, effettivamente credo che adesso se ne vogliono ridurre non più a 34 ma a 100, 200, forse le famose... C'era una scadenza. Taddei, professor Taddei, su questo, quando le centrali d'acquisto dalle 30 e rotte mila che sono potranno essere ridotte anche a 1000, insomma ci accontentiamo di un taglio di questo tipo, quando potrà succedere? Io vi ripeto quello che vi dicevo all'inizio, cioè il luogo per fare la revisione della spesa è la legge di stabilità. Perché se facciamo... Dovremmo attendere 45 giorni. Aspetti Milan, perché sembra solo che qui stiamo a menare il camperlaia. Cioè qui stiamo facendo una ristrutturazione della spesa corrente dello Stato, cioè della spesa che ogni anno lo Stato fa per le sue operazioni ordinarie, per dare quei servizi che vanno ai cittadini, alcuni per servizi che non vanno ai cittadini, ma che vanno zio solo sa dove, e quell'intervento strutturale voi non potete pensare che venga fatto con un interventino al giorno, con un decretino al giorno, perché non è così che si legifera. Gli italiani hanno atteso 20 anni, credo che se dovessimo attendere 45 giorni per avere una legge di stabilità che prevede dei tagli sostanziali alla spesa pubblica, siamo tutti pronti a... non è che 45 giorni cambiano la vita delle persone, però fatemi presentare un altro ospite che è Massimo Blasoni, è un imprenditore, presiede il Centro Studi Impresa Lavoro. Buongiorno Blasoni, grazie voi, per essere con voi. Lei ha fatto questa iniziativa che le ha reso anche un po' di celebrità in questi giorni, la chiamiamo noi, ieri l'ha intervistata al Fatto Quotidiano, ha comprato una pagina sul giornale di pubblicità nella quale si vede Matteo Renzi fotografato oggi e Matteo Renzi fotografato nel 2042 in una ricostruzione di quello che potrebbe essere Renzi a 67 anni e questo slogan che è molto impattante: torneremo ai livelli del 2008 quando Renzi avrà 67 anni, se il PIL mantiene il tasso di crescita, se c'è poi la crescita che abbiamo attualmente. Perché ha fatto questa iniziativa? Per sbattere in faccia questa dura realtà agli italiani, Blasoni? Ma no, è evidentemente una provocazione che ha anche sortito l'effetto, visto che ne stiamo parlando. È un modo per dire che comprendiamo tutti che ci sono enormi difficoltà nel tentare di ridare un assetto, come dire, competitivo al paese, però che questo deve avvenire in tempi molto più rapidi. Cioè, stavo ascoltando naturalmente la trasmissione, cioè, credo che l'italiano medio oggi si senta subissato da una serie infinita di numeri che ognuno di noi sciorina, ma abbia la sensazione di un processo che non si è nemmeno avviato. Quando Renzi si insedia vuol dare la sensazione di una capacità di fare riforme, come dire, rapidissimamente, tempestivamente, una dietro l'altra. Oggi, dopo 191 giorni, forse la sensazione è che questa asticella portata così in alto viene a traguardarsi un tempo futuro che viene portato sempre più in là, no? Adesso sono diventati 1000 giorni, però nel dato, nella comprensione comune, c'è questa svolta o no? Pare proprio di no. O si adottano misure shock o appaiono tutte misure... Ecco, le misure shock, lei da imprenditore quale misura shock lei adotterebbe? Sappiamo che adottare una misura shock per un politico non è facile, perché c'è sempre la questione del consenso popolare con cui misurarsi, ma mi dica la sua ricetta. Ma guardi, io credo che una ricetta dirimente non ce l'abbia nessuno, però due o tre cose gliele dico. C'è la contrazione della spesa pubblica, doveva essere di 7 miliardi il primo anno, 15, 16 il secondo se non ricordo male, 32 nel 2016. Se comprendiamo tutti perfettamente che il processo non si è nemmeno avviato. L'unica cosa che si doveva fare era agire sulle partecipate, la misura è già stata rinviata. Però oggi, su questo Blasoni, accogliamo l'invito alla pazienza di Filippo Taddei che ci dice aspettate la legge di stabilità, magari tra 45 giorni scopriremo che in questa legge di stabilità questi tagli ci sono. Però detto questo è giusto che lei lo sottolinei, la contrazione della spesa pubblica. Poi... No, io direi che però appare un pochino questo invito, quello di Atandango Do, cioè non vorrei che questa attesa poi forse in realtà un'attesa procrastinata all'infinito. Primo, quindi dicevamo contrazione della spesa pubblica vera, diamo come deadline la legge di stabilità, staremo a vedere. Secondo, misure per lo stimolo dell'economia. Si è andati sugli 80 euro che non sembrano aver sortito grandi effetti. Io, come dire, difenderei più misure o proporrei più misure che fossero di contrazione di imposizione fiscale alle nostre imprese. Ma scusi, un'impresa italiana oggi che si trova ad avere un'imposizione fiscale nettamente superiore alla media OCSE, un'impresa italiana che ha più difficoltà con la burocrazia, che paga di più l'energia, che ha più difficoltà all'accesso al credito, gli costa di più, non può competere. Allora, se le nostre aziende muoiono, credo che poi non ci saranno nemmeno i posti di lavoro. Esatto, quindi non si può creare la leva fiscale va. Sulla leva fiscale occorre agire con più coraggio, questo non l'ha fatto per nulla. Io su questo vorrei capire da Giorgio Mulè se davvero Renzi è l'ultima alternativa, perché prima di non vogliamo neanche sapere che cosa, immaginare che cosa, perché molti dicono guardate che questa è l'ultima chance, l'ultima possibilità, o prendiamo questo treno oppure no. Politicamente è un discorso che regge? Nella situazione data certamente sì, certamente in questo momento non c'è politicamente un'alternativa a Matteo Renzi, non ci sono le condizioni istituzionali e costituzionali per andare a votare perché non abbiamo una legge elettorale, e quindi in questo momento sarebbe davvero far votare col consultello uno schiaffo agli italiani, ma io non mi occuperei neanche di questo. Renzi ha, che è un premier peraltro non eletto, che è frutto di una manovra interna al PD, quindi questo tra virgolette si potrà anche offendere Renzi, ma ahimè è la verità, proprio da questo in realtà deriva la sua forza, il fatto che si è dato questo termine di 1000 giorni al 2017, sa che in questo momento non c'è nessuno in grado di prendere in mano il paese, abbia il coraggio di fare quello che deve fare, cioè governare, non si occupi di banane, di gelati, di fare il pagliaccio ogni tanto in giro, si occupi di rendere serio questo paese facendo delle cose serie. Lo shock, bene, sono nella legge di stabilità non 12 miliardi il prossimo anno, sono 50 miliardi di tagli che non si dispiegano in un anno, perché gli tagli alla spesa hanno bisogno di tempi, perché devono arrivare a scadenze i contratti, devono essere rinegoziati, cioè è un processo lungo, ma serietà vuole che io dico porto l'Italia nel 2017 ad avere dei tagli di spesa di 60-70 miliardi, allora sì che c'è lo shock e c'è le risorse per rifar partire l'economia, incidi sui privilegi, sulle situazioni che hai, hai tutto il tempo e non c'hai nessuno che ti rema contro. Sentirei Francesco dalla provincia di Vicenza che ci chiama all'800240024, eccoci Francesco. Pronto, buongiorno, grazie per l'opportunità di intervenire. Io sono consigliere comunale di un comune medio piccolo della provincia di Vicenza, sì. E mi sento di finalmente ringraziare il direttore di Panorama, anche se poi durante la trasmissione ha detto una cosa su cui non sono assolutamente d'accordo, ma per aver citato il discorso delle tasse comunali, quindi multa, tari, perché una cosa che io vi ascolto spessissimo a voi, anche altre trasmissioni di Radio 24, ma anche altre trasmissioni radiofoniche, che non si dice, e ieri mi ha fatto veramente esplodere quando Renzi ha detto che gli 80 euro sono la diminuzione di tasse più importante, sì, della storia della Repubblica, perché non dicono che effettivamente queste tasse comunali non sono tasse che il comune decide di mettere, sono tasse che vengono imposte dallo Stato al comune, sì, attraverso il taglio dei trasferimenti. Adesso io magari la faccio tanto semplice. Beh, però poi i comuni possono stabilire, i comuni più virtuosi come c'è detto Taddei, che hanno i conti un po' a posto, possono mettere i massimali, non mettere i massimali, quelli che sono un po' in difficoltà possono mettere, cioè si può agire anche come leva fiscale. Assolutamente, però guardi che noi siamo virtuosi da 5 anni, da quando siamo in amministrazione, sì, abbiamo subito i tagli di trasferimenti ogni anno, sì, aumenti dell'obiettivo e quindi dovete chiedere anno. Soldi ai cittadini, e quindi siamo costretti a chiedere i soldi ai cittadini. Qui è un'operazione vergognosa a mio parere, perché con una mano si danno 80 euro non a tutti tra l'altro, e con l'altra si tolgono, ma non, cioè lei dice date 80, lei dice, guardi che le risponde, stia con noi, che le risponde Filippo Taddei, che è responsabile economico del PD, e lei dice ci date 80 euro ad alcuni cittadini, però poi togliete i soldi agli enti locali, questi enti locali cosa devono dire? Cari cittadini, adesso chi ha ricevuto gli 80 euro vi aumentiamo le tasse, però perché, e quindi Taddei dice insomma quasi scaricare la responsabilità sugli amministratori locali che poi si ritrovano di fronte ai cittadini arrabbiati. Che risponde? Che questa telefonata che abbiamo sentito è uno degli esempi più plastici di quanto, più concreti anche, di quanto sarà difficile fare la revisione della spesa, di come tutti i numeri che ho sentito baleari, 60 miliardi di tagli, sono sono numeri che non hanno nessuna possibilità di realizzo e su cui bisogna stare molto attenti, distinguendo aneddoti da statistiche. Perché vedete, ogni volta che tu intervieni sulla spesa pubblica, tocchi sempre un interesse. E quello che abbiamo sentito oggi è sempre questa storia di tutti i comuni. Voi dite che c'è stato un intervento sulla spesa pubblica corrente, vi faccio presente che già nel decreto 66 ci sono 3 miliardi di tagli alla spesa determinati e definiti, parte dei quali sono, sì, lo diciamo, tagli non solamente alla spesa dei ministeri, ma i trasferimenti agli enti locali. E subito tutti gli enti locali a dire come ci tagliate i trasferimenti, ci obbligate a tagliare, ad aumentare le tasse. Come si è detto, cioè tagliare la spesa pubblica vuol dire toccare interessi di tutti. È il momento cruciale, tagliate i trasferimenti, ci obbligate a aumentare le tasse. No. Vi chiediamo di essere efficienti, vi chiediamo di cambiare anche voi, perché la revisione della spesa pubblica non è una cosa che si fa a Roma in 4 ministeri, ma che coinvolge tutti gli aspetti, tutti i livelli di governo dello Stato. E se noi cominciamo il gioco della distinzione, per cui no, io sono obbligato a aumentare le tasse perché non voglio cambiare, come anche il fornitore da cui amministratore che dirà io sono obbligato a licenziare i lavoratori perché voi mi avete tagliato, non mi avete più permesso magari di vendere la proverbiale siringa a 3 volte il suo prezzo. Io capisco che queste proteste ci saranno, però queste proteste sono veramente fuori tempo massimo, perché la revisione della spesa, l'operazione di cambiamento strutturale della nostra pubblica amministrazione o coinvolge tutti i livelli di governo, sì, oppure, scusatemi, stiamo parlando di nulla. Ma guarda che infatti Taddei mi pare di capire sia da Mulè e vorrei capire anche dall'imprenditore Massimo Blasoni che in realtà quello che vi si chiede e si chiede al governo è invece di andare avanti come un carro armato, non di guardare tutti questi, non so, Blasoni, questo da imprenditore. Ovviamente sì, ma perché le difficoltà delle politiche sono ovvie, però mi spaventa moltissimo quello che stava dicendo Taddei. Cioè, nel momento in cui comincia a mettere le mani avanti e dice che le difficoltà sono enormi, che ci saranno proposte. Eh beh, ma perché le pressioni ci sono, tutto, effettivamente. Ma questa di tutta evidenza è messie della palice, questo lo capiamo tutti, però la sfida vera per il governo Renzi è farle alcune cose, perché altrimenti la luna di miele che già sta finendo, fra un attimo si trasformerà in proteste. Oggi tutti noi gli chiediamo, anche chi non l'ha votato, io certo non l'ho votato, però di andare avanti con maggior coraggio, perché sennò l'annuncite finisce per essere una malattia riconosciuta anche dal prontuario nazionale. Cioè dire nonostante queste proteste che ci saranno di tutti i tipi, andare avanti come un carro armato. Guardi, senta, mi faccio dire sì, una cosa ancora se posso. Per gli italiani le riforme sono sempre not in my backyard, no? Non nel mio cortile, ognuno certo, pensa che si debba riformare, sì, mai le cose sue. Però credo che nella comprensione media oggi ci stia una cosa: o si tenta oggi o il paese va in default. Quindi, caro Renzi, vai avanti con coraggio, perché altrimenti, come dire, non avrai conoscenza. Io vorrei capire vorrei capire da Giorgio Mulè se esiste un leader politico in grado, alla Schröder, visto che l'hai citato, di andare incontro anche alla propria impopolarità, andare incontro eventualmente a un bagno di sangue dal punto di vista elettorale, però per dire vi ho sistemato il paese così, distruggendo queste posizioni di rendita. Esiste, si chiama Matteo Renzi perché è un premier non eletto che ha davanti a sé una prateria di 3 anni, nei primi 2 anni fa il lavoro sporco, tra virgolette, il terzo anno fa vedere che quel lavoro ha portato i risultati. E chi lo deve fare se no? È questo, infatti, Filippo Taddei qua. Altrimenti sempre ci tenevamo letta, scusami, no, sempre, perché abbiamo cambiato ma infatti Mario Adinolfi qua ha usato un'espressione dicendo il 25 maggio, adesso non so se ricordo se la data dell'elezione è quella, Matteo Renzi è stato eletto imperatore dagli italiani, che poi non erano elezioni nazionali, ma quel consenso del 40%. Cioè potete fare quello che volete dal punto di vista positivo, Taddei, non è che sto dicendo negativo. Avete in mano la possibilità veramente di incidere profondamente, proprio perché attualmente non c'è alternativa politica. Se non lo si fa adesso, quando lo si fa, anche scontentando molte persone? Guardi, ma questo non è oggetto di dibattito, questo è il punto di consenso. Siamo tutti qui a dire che questa cosa la facciamo, e a differenza dei miei interlocutori, io qui rinnovo l'impegno, che è quello del Presidente del Consiglio, per conto del Partito Democratico. Quindi qui non è che ci stiamo scartando, però io, proprio perché so quali sono le difficoltà, devo difendere quello che viene fatto. Ma perché se noi continuiamo a disconoscere quello che è stato realizzato, confondendo aneddoti e statistiche, come viene fatto puntualmente con la TASI, dove si prende sempre il comune che ha alzato la TASI, ma si dimentica quelli che l'hanno più diminuita, e poi si dimentica il dato medio, e il dato medio è in calo. Si dice che bisognava fare un intervento sulla spesa pubblica più marcato, ma si dimentica quello che si è fatto. Se noi facciamo questo, guardate, non è un problema per il Partito Democratico, per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, va benissimo, non vi è simpatico, va benissimo, non vi piace questa linea politica, non c'è nessun problema. È un problema per questo Paese, e io devo tutelare il dibattito, la qualità del nostro dibattito pubblico. Lo faccio e mi impegno a farlo, ma non solamente per l'interesse collettivo. Quindi io vi dico, qui rappresento un impegno. L'impegno è che noi interverremo sulla spesa pubblica, come ci siamo detti, in maniera strutturale e in maniera permanente. Sono io che prendo questo impegno collettivamente per conto del mio partito, per conto nell'impegno che diamo e nel sostegno che diamo al governo. Questo impegno è dato, quindi non lo stiamo a ridiscutere. Okay? Perfetto. Il punto, però aspetti, però prima al momento cruciale, non facciamola semplice, perché semplice non è. Quando io sento i numeri che ballano in troppa libertà, o quando penso a un imprenditore che mi dice non c'è stato nessun intervento per il sostegno alle imprese sulla fiscalità aziendale, io sono un po' allibito, perché mi può benissimo dire che il 10% di riduzione dell'IRAP non è sufficiente, che la defiscalizzazione dell'investimento in macchinari per superiori ai 10.000 euro non è sufficiente, che la superace per sgravi fiscali per la capitalizzazione delle nostre imprese non è sufficiente. Io le accetto tutte queste cose, sì. Ma non accetto che si dica non è stato fatto nulla, accetto che mi si dica non è stato fatto abbastanza, e io, a questo punto io dico aspettate la legge di stabilità dove vediamo ma non nulla, giusto rivendica diciamo quello che è stato fatto finora. Vediamo se c'è Andrea, se è sintetico. Andrea, le chiedo questa cortesia, anche se è da tanto in attesa. Ecco, è caduta la linea. Vabbè, Blasoni, vuole concludere lei nel 2042 che succederà? Nel 2042 speriamo di esserci tutti. Sì, beh, questo è ovvio. Ma io Taddei direi, nessuno dice che non è stato fatto nulla. Però quando leggo oggi su Repubblica che anche il governo Renzi ha 171 decreti attuativi ancora da emanare, vedo un atteggiamento che mira a quello dei governi precedenti. Quindi diamogli ancora fiducia, però la deadline è la legge di stabilità. Certo, scuse non ce ne sono, 45 giorni. I 700 decreti attuativi effettivamente ci sono, come racconta anche oggi Sole 24 Ore, ma lì credo che veramente quella palude romana a cui ha fatto riferimento tante volte Matteo Renzi sia proprio lì che si annidi, la palude romana dei 700 decreti attuativi. Ringrazio Filippo Taddei, responsabile economico del PD, Giorgio Mulè, direttore di Panorama, e Massimo Blasoni, presidente del Centro Studi Impresa Lavoro. Torniamo dopo il giornale radio, parliamo di adozione per le coppie omosessuali, avremo il giudice Melita Cavallo che ha deciso la prima sentenza in merito. Che te pozzino via fuoco, ciao Mila. 24 mattino. Sono le 9:08, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora rimaremo insieme, come sapete, fino alle 9:30. Di cosa vogliamo parlare ora? Beh, vogliamo parlare di quello che nei giorni scorsi è stato il dibattito sulla possibilità di adottare figli da parte delle coppie omosessuali. Un dibattito che si è animato dopo che si è diffusa la notizia di una sentenza che non ha precedenti in Italia ed è stata presa dal Tribunale dei Minori di Roma. Protagoniste sono due donne omosessuali che da 10 anni hanno una relazione e una bimba, la figlia biologica di una di queste due donne concepita in Spagna. Ebbene, il Tribunale di Roma ha stabilito per la prima volta in Italia che la compagna della madre biologica diventa di fatto madre adottiva della bimba, che ora può portare anche il doppio cognome. I critici si sono subito scagliati contro questa decisione dicendo che in mancanza di una legge, e sapete che a legiferare è il Parlamento, i tribunali attraverso sentenze vogliono introdurre in modo un po' surrettizio l'adozione tra omosessuali, al di là del netto del dibattito che prevede sempre degli steccati ideologici molto molto contrapposti, vediamo di capirne qualcosa di più sicuramente con una diretta protagonista della vicenda, vale a dire la presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma, Melita Cavallo, che ha firmato questa sentenza e che saluto. Buongiorno presidente, ed eccoci qua. Buongiorno. Così come voglio salutare il professor Adriano Pessina, che insegna filosofia morale alla Cattolica di Milano. Professor Pessina, buongiorno e grazie per essere con noi. Allora, Melita Cavallo, intanto spieghi in maniera chiara ai nostri ascoltatori, perché so che c'è una legge particolare che ha permesso di firmare questa sentenza, il perché di questa decisione. Ma penso che si sia fatto un po' confusione tra l'adozione della coppia omosessuale e l'adozione in casi particolari. Qui non si tratta di un bambino abbandonato che è stato dato in adozione a una coppia omosessuale, ma si tratta di una bambina, figlia biologica di una delle due conviventi, e la sua convivente, stabile convivente, ormai da oltre 10 anni le persone sono insieme, ha fatto richiesta di adottare la figlia della sua convivente. E noi abbiamo applicato un articolo di legge che esiste sin dall'anno 83, che è stato successivamente modificato nel 2001, un articolo che parla di adozioni in casi particolari, cioè riguarda situazioni di bambini che sono in una condizione esistenziale tale per cui hanno bisogno di maggiori garanzie per dare stabilità al loro vincolo affettivo con delle persone che si occupano di loro molto positivamente. Quindi è una norma che noi abbiamo applicato e applichiamo da lontano, dagli anni 80. Sì. Ma è la prima volta. Nessuno aveva mai fatto nessuna coppia omosessuale in cui una è genitore biologico, l'altra non lo è, ma convive con lei e si occupa stabilmente della bambina in modo soddisfacente. Aveva proposto questa domanda. Certo, ma lei ci sta dicendo, Presidente, che a questo punto, voglio dire, altre coppie omosessuali potrebbero, rivalendosi appunto a questa legge del 1983, l'adozione in casi particolari, utilizzare questo appiglio legislativo e normativo. Però questo non significa che avrebbero comunque, otterrebbero comunque sempre l'adozione, chiaro. Perché la legge poi chiede che sia verificato che questa adozione risponde all'interesse superiore di una bambina, quindi bisogna provare la positività della situazione familiare, l'esistenza di un vincolo consolidato tra le due mamme o i due papà, diciamo, e la relazione positiva con il bambino. Quindi si deve trattare di un bambino grandicello che possiamo vedere come evolve nel suo percorso di crescita. Quindi c'è un'indagine abbastanza approfondita sulla situazione familiare. Su questo non c'è dubbio, cioè non c'è un automatismo, no, basta appigliarsi a questa legge, ma questo ci mancherebbe. Però diciamo che apre ad eventuali possibili ulteriori scelte da parte di un tribunale che vedesse le stesse condizioni che avete voi trovato in altre famiglie di questo tipo, del potere allargare la questione. Non bisogna dimenticare che la nostra Costituzione ci dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua. Quindi il sesso lo mette al primo posto. Quindi noi non possiamo dire, finora è stata fatta da coppia eterosessuale, dal compagno di una coppia eterosessuale, no, siccome è omosessuale no, perché c'è lo sbarramento dell'articolo 3 della Costituzione, cioè noi non possiamo fare discriminazione. Uno dei punti sui quali molti cittadini sottolineano c'è un limite in Italia, su questo vorrei cominciare a coinvolgere il professor Pessina, è che laddove manca una legislazione o laddove c'è un Parlamento incapace, perché per ideologie diverse, per steccati contrapposti, per svariati motivi, perché ci sono altre priorità, qualcun altro pensa, incapace di legiferare in questo campo, e allora che succede, professor Pessina? Che gli interventi dei tribunali di fatto vanno a costituire delle norme che in pratica cambiano non solo il diritto, ma cambiano anche la legislazione. Secondo lei questo è un procedimento, è un processo corretto in una democrazia? Ma io penso proprio di no, perché si trasformano dei fatti, cioè delle situazioni fattuali, in situazioni che determinano delle dimensioni di diritto. Quello che mi colpisce nel discorso che ho appena sentito fare è questo, che ci troviamo di fronte in realtà a un fatto, e cioè che c'è una bambina che ha una madre, che questa bambina non è affatto in stato di abbandono. Tra l'altro noi dobbiamo sempre aggiungere biologica, che è un po' un paradosso, perché il significato originario di madre passa attraverso il biologico. Dopodiché non si capisce perché una bambina che ha una madre e questa madre convive con un'altra signora debba essere considerata adottabile. Allora dobbiamo pensare che in realtà tutte le persone, le mamme single che hanno una figlia o un figlio sono di per sé adottabili? In realtà non è così, cioè mi sembra che si voglia nascondersi dietro un dito. Si è voluto attraverso questo atto, secondo me un'interpretazione, in qualche modo avallare l'idea che sia legittima l'adozione da parte di una coppia omosessuale. Tanto è vero che qui si dovrebbe dire che c'è una madre biologica e una madre psicologica. Lei non crede però che, e che credo che questo sia ciò che ha mosso la coppia, spesso si dice ci sono da parte della madre non biologica, usiamo questo termine anche se lei ci ha spiegato che è improprio, dei diritti che vengono lesi, per esempio diritti molto concreti, la devo accompagnare all'asilo, a scuola, ho bisogno di una delega, sebbene io mi occupi quotidianamente come fossi un genitore vero e proprio, oppure va in ospedale, ho bisogno di un'autorizzazione da parte di qualcuno, altrimenti non ho il diritto a vedere la persona che, di cui mi occupo quotidianamente. Beh, diciamo che le cose sono anche meno complicate di come le vogliamo rappresentare, nel senso che se capita anche che io chieda alla mia vicina di accompagnare a scuola mio figlio, nessuno gli chiede la delega perché ha accompagnato a scuola. Quindi se vogliamo creare assolutamente delle situazioni forzate per stabilire delle situazioni difficili, possiamo anche farlo. Io, scusi, finisco dicendo, in ogni caso il presupposto fondamentale che noi dobbiamo discutere è questo, e che io in qualche modo contesto radicalmente, cioè esiste o no un diritto ad avere o un diritto sui figli? Io credo che il figlio di per sé non possa costituire una forma di diritto che possa essere fatto valere, sui quali si abbia una qualche pretesa. Ecco, questa è un po' la mia tesi. Mi sembra, e poi chiudo subito, che qui si tuteli di più l'esigenza, giusta, capisco emotivamente e psicologicamente, non è che sto dimenticando questo aspetto emotivo di coinvolgimento, ma si tutela di più l'esigenza della compagna che vuole fungere da madre psicologica rispetto a quella che è la situazione reale del diritto della bambina. Presidente Cavallo, la questione è il dubbio di Pessina e anche di molti, l'avrà letto, le reazioni politiche, le reazioni dell'opinione pubblica, di moltissimi, a pensare si è voluto di fatto normare l'adozione per gli omosessuali quando questo non è previsto dalla legge italiana. Ma come già ho detto, è cosa ben diversa dall'adozione, quello che io contesto al professore che è intervenuto è che non c'è il diritto della donna convivente, c'è il diritto di una bambina ad essere riconosciuta come figlia anche da una donna che si occupa molto positivamente di lei, che è in grado di sostituire in caso di necessità l'altra mamma. Quindi è stato fatto nell'interesse del bambino, e gli chiedo di leggere la norma che abbiamo applicata, che è molto chiara. Però mi chiedo Presidente Cavallo, effettivamente seguendo anche il professor Pessina, essendoci già una madre naturale, una madre biologica che si prende cura della bambina e che può avere la compagna che vuole, cioè che bisogno c'è di scrivere per diritto di avere anche un'altra mamma che si occupa? Perché io lo scriverei se fosse un uomo. Non vedo perché non posso scriverlo se è una donna, perché esiste l'articolo 3 della Costituzione, esiste una CEDU e che ha più volte deciso in questo senso, una Corte Costituzionale che con una sentenza del 2010 ci ha detto chiaramente che oggi il modello non è più quello tradizionale, perché tutta la normativa internazionale va in questo senso, e io giudice del Tribunale per i minorenni, nell'interesse superiore del bambino, devo tenerne conto. Ha sentito, professor Pessina, non si tutela l'esigenza della compagna di sentirsi madre, ma si tutela l'esigenza della bambina soprattutto. Sì, certo. Comunque la ringrazio. ringrazio perché in realtà in questo modo si conferma la mia tesi di fondo, e cioè la tesi che sta alla base di questa sentenza è: non esiste alcuna differenza fra coppie omosessuali e eterosessuali, quindi non esiste alcuna differenza fra coppie eterosessuali che adottano e coppie eterosessuali omosessuali che adottano. Tanto è vero che ha detto, non risulta per me irrilevante se la domanda la faccia un uomo o una donna. In realtà per ora risulta ancora rilevante, perché in qualche modo nel momento in cui ci fosse, diciamo, un uomo, la bambina mancherebbe di una figura che è il padre, mentre qui in qualche modo la figura della madre esiste già. Sì. Quindi in questo senso, se non vogliamo giocare, come dire, a nascondersi dietro un dito, io credo che, insomma, se uno ritiene che sia legittimo che le persone, le coppie omosessuali adottino, lo dicano chiaramente, cioè non giochiamo con delle carte nascoste. Perché tutto questo ragionamento ha un presupposto che non viene dichiarato. In democrazia la chiarezza, la descrizione, la discussione è un elemento fondamentale che si basa però sul fatto di dire tutti gli elementi in gioco. Cioè, parliamoci chiaro, per lei, professor Pessina, questo è il punto di rimente, è importante se la domanda proveniva da una donna e proveniva da un uomo rispetto a se la domanda proveniva da una donna, ecco, parliamoci chiaro. Cioè, una famiglia è fatta da un padre e una madre, da un uomo e una donna. I genitori sono un uomo e quindi una persona di sesso maschile e una persona di sesso femminile. Ma se dobbiamo parlare del termine genitore, come se vogliamo ancora continuare a usare la lingua italiana, nel senso che poi possiamo usare le parole come vogliamo, possiamo essere anche creativo. Il concetto di genitore implica sicuramente un tema fondamentale, che è il rispetto e il riconoscimento delle differenze, che non è una discriminazione per nessuno, perché le differenze rimangono sempre, le differenze fra il maschile e il femminile ci sono anche nella coppia omosessuale, nel senso che la coppia omosessuale è fatta da due uomini o da due donne, cioè le differenze del maschile e del femminile non è che possiamo abolirle linguisticamente, non basta pensare un'identità per creare un'identità. Allora, io credo, discutiamone, parliamone, io credo che senza essere come al solito tacciati di omofobia eccetera eccetera, si possa tranquillamente dire che le relazioni interpersonali tra due persone dello stesso sesso, a mio avviso, non sono sufficienti per determinare una sorta di diritto ad adottare dei bambini. Questa è la mia posizione, per essere onestamente chiaro. No, altrimenti... ma è chiaro, è una posizione chiarissima. Presidente Cavallo, poi vorrei dare anche, come sapete, su questi temi poi la gente chiama e vorrei dare la parola anche a qualche ascoltatore. Le posso fare una domanda tecnica per capire? Allora, detto che è un'ipotesi che non auguriamo assolutamente alla madre biologica, ma dovesse venire a mancare la madre, la compagna, è a tutti gli effetti, sarebbe a tutti gli effetti la madre? Cioè... Certo. Quindi con tutti i diritti acquisiti. Ed è per questo che diciamo il legislatore ha previsto questa norma, anche sotto il profilo patrimoniale, insomma è una norma prevista nell'interesse di un bambino che vive stabilmente una condizione affettiva e di crescita in un ambiente ritenuto sufficientemente adeguato. Che ne pensa delle reazioni che ci sono state politiche? Cioè, c'è qualcosa che le ha dato fastidio del dibattito che si è innescato dopo questa sentenza? No, credo che sia legittimo il dibattito e spero che possa portare a una visione chiara delle cose. Ancora una volta si confonde l'adozione in casi particolari con l'adozione di un bambino adottabile perché abbandonato. In questo caso abbiamo migliaia di coppie per centinaia di bambini, io penso che la coppia omosessuale diventa poi residuale, quindi non bisogna confondere le cose. Ecco, questo è importante, cioè lei di fronte alla situazione invece di un bambino abbandonato non prediligerebbe la coppia omosessuale, dice ci sono più coppie formate. Ci sono migliaia di coppie per centinaia di bambini, ora la coppia omosessuale non verrebbe scartata, ma io credo che sarebbe in una posizione meno E questo perché? Diciamo. E questo perché? Cioè, non vuol dire... Perché esiste ancora anche se in via subliminale, ma esiste il pregiudizio, esiste un po' in tutti, e comunque diciamo, se il bambino proviene da una coppia diciamo eterosessuale, quindi già alle sue figure, alla sua, penso che il giudice tenderebbe a privilegiare la coppia eterosessuale. Che però lei dice non è una contraddizione in termini rispetto a quella che la decisione, no, perché, che lei ha preso. Perché l'altra è diversa, è una situazione completamente molto diversa. Particolare. È una situazione di fatto, perciò si chiama casi particolari, perché è un caso particolare. Ce ne potrebbero essere altri, ma non tutte le convivenze omosessuali potrebbero, ove uno dei due soggetti sia genitore biologico di un bambino, potrebbero poi ottenere questo riconoscimento che abbiamo dato è noi. È molto chiaro. Io vorrei sentire Valeria, ci chiama da Rimini. Buongiorno Valeria. Buongiorno. Vi chiedo scusa per il mio italiano spagnoleggiante, sono argentina, sono un legale argentino. Niente, volevo fare un commento per quanto riguarda questa sentenza, abbandonando un po' i tecnicismi, volevo dire che mi sembra che stiamo vivendo in una società che vuole un po' ignorare le situazioni di fatto che si creano, e che in realtà questa sentenza, secondo me, è proprio in interesse del minore per aspetti pratici, ma non è solo che la signora che va a prendere a scuola il bambino, ma immaginiamoci per esempio in caso di decesso della madre biologica, adesso non ho sentito cosa potrebbe succedere. Ci ha spiegato che infatti la compagna adesso di fatto è madre a tutti gli effetti, anche per i diritti patrimoniali, per i diritti di successione, è madre, è genitore, insomma, no, genitore, ecco, Pessina, forse genitore è la parola, è la parola sbagliata, ho usato genitore no, ma madre per la legge. Valeria, la ringrazio, insomma, le tematiche sono proprio queste. Vorrei andare a Udine da Laura. Buongiorno Laura. Buongiorno, un saluto a lei e a tutti. Grazie. Io penso, questo mi turba molto, questa bambina nella società si vergognerà se ha un carattere mite, timido, sensibile, cioè noi dobbiamo pensare non al proprio egoismo, ma al bambino che mettiamo al mondo. È già difficile con madre e padre allevare un figlio, poi se è ancora un ragazzo o una bambina particolare, ecco, io mi preoccupo di questo. Cioè lei si preoccupa del fatto che nella società debba giustificare questa bambina di avere due mamme, anche perché io ho un'amica che è figlia di Enel, è stata adottata. Quando è andata a scuola e si è resa conto di essere stata adottata, ha fatto una tragedia. Beh, questo caso non è adozione, cioè la mamma c'è, come ha sentito. La mamma è sua mamma, e poi la compagna della mamma è l'altra mamma. Sì, però io sto pensando che questi bambini, questi figli soffrono. Ecco, io ho questa, non voglio giudicare. Beh, un po' di giudizio lo dà, ma insomma è legittimo, Laura, il suo dubbio è legittimo. Professor Pessina, qui metterei le due ascoltatrici a dire, da una parte Laura dice chissà nella società che riflesso avrà questa decisione, dall'altra parte la prima ascoltatrice ci ha detto non si tiene conto delle situazioni che si creano di fatto, della società che è cambiata, del mondo che è cambiato. Il fatto che il mondo sia cambiato non vuol dire che noi dobbiamo di per sé adeguarci a quello che capita nel mondo. Esistono le leggi ed esiste la democrazia proprio perché in qualche modo il mondo va governato. Allora, a parte il fatto che anche qui linguisticamente non capisco per quale motivo la bambina debba chiamare uno mamma 1, mamma 2, può chiamare la mamma e la compagna della mamma. Cioè anche linguisticamente mi sembra così bello, sobrio e sereno, che toglie anche tutta una serie di ambiguità su questo uso improprio dei termini. Certo, ci sono vari problemi, ma c'è anche un altro problema. Se per esempio la compagna abbandona, la mamma, ci si aprono poi tutti gli stessi problemi del diritto matrimoniale, eccetera, eccetera. Allora, io credo che prima di fare una sentenza di questo genere, non entro in merito nel dispositivo perché non ho letto attentamente la questione e non ne sono abbastanza competente, però che prima occorrerebbe fare una valutazione di merito su questo aspetto, cioè noi riteniamo o no di legiferare in termini tali per cui riconosciamo il diritto all'adozione o meno delle coppie omosessuali. Questo è un caso particolare, ha ragione il giudice quando ricorda che qui c'è una mamma, no? E c'è una compagna, quindi sono d'accordo, si possono trovare delle forme giuridiche in modo da garantire alcune forme, come dire, di tutela anche di questa convivenza che esiste, ma teniamo presente che nel modello che stiamo facendo stiamo di fatto introducendo e legalizzando quello che ancora non si è deciso, e cioè il matrimonio fra coppie, fra persone omosessuali. Perché il matrimonio, lei dice addirittura? Ma non lo so, mi dica lei con quale termine vogliamo chiamarlo, ma diciamo che anche attualmente non c'è ancora una regola sulle partnership per le coppie omosessuali. Forse io avrei aspettato di valutare che cosa succede quando avviene una situazione di questo tipo. Aggiungo un'altra cosa, tra l'altro noi trascuriamo anche un altro antecedente, e cioè il fatto che questa bambina è frutto di una fecondazione eterologa, perché per avere un bambino occorre ancora il seme maschile. Sì, certo. Quindi esiste anche un padre anonimo, no? Che è il donatore di seme, d'accordo? Ed esiste anche quest'altra fattispecie, che questo è stato fatto all'estero, perché attualmente in Italia è vietato, anche se in alcune regioni oggi proprio leggiamo in base ad alcune sentenze si apre la fecondazione eterologa. Forzature di tutti questi elementi senza che in qualche modo si venga a giudicare una questione fondamentale. La gerarchia direi dei beni, ci sono alcuni beni da tutelare, sicuramente il bene del minore è da tutelare, sì. Ma va anche tutelato a monte, cioè va anche tutelato il fatto che non si creino delle situazioni per cui con il riferimento del bene del tutore del minore poi si debba cambiare totalmente l'organigramma della vita. Allora, questa è la sua posizione molto chiara, vorrei sentire e concludere con Marina, ci chiama da Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono una mamma lesbica e sono anche una pedagogista, per cui prima di avere una bimba, cioè ho pensato, studiato e ponderato bene questa scelta. Bisogna, secondo me, basarci sulle evidenze scientifiche che ci sono, perché abbiamo studi scientifici sull'argomento dal 70, quindi sono 40 anni di studi scientifici dove sono stati studiati i bambini sotto l'aspetto cognitivo, emotivo, sociale. Cioè è stato non ci sono evidenze scientifiche che facciano pensare ad un danno che un bambino subisca perché è cresciuto da genitori omosessuali. Però Marina, mi scusi, lei... I genitori sì. Sono altri, sono la cura, sono l'amore, sono l'empatia, sono altri gli indicatori, e anche questo fatto del padre e della madre. Ci sono due stili educativi, cioè quello materno e quello paterno. Però mi scusi Marina, no, rimanga con noi, lei ne pone solo un aspetto scientifico, ma lei accetta i dubbi etici da parte di chi dice... I dubbi etici devono essere... Anche se vuole anche religiosi. Scientifiche. Ma religiose io infatti non le contesto, perché se uno ha una credenza, però il professore prima accennava ai mutamenti storici che secondo lui il legislatore... L'etica con la scienza, cioè nessuno mette in dubbio che una coppia omosessuale possa crescere un bambino. Concetto che in mutamenti storici il legislatore non dovrebbe tanto darne conto, allora noi dovremmo essere fermi alla famiglia patriarcale. Allora noi dovremmo, cioè se noi facciamo uno studio sulla famiglia, la famiglia è un fatto puramente culturale, sì. E se andiamo in largo e in lungo rispetto sia al tempo cronologico e storico, rispetto anche alle aree geografiche, noi scopriamo che esistono tantissimi tipi di famiglie dove esiste un uomo e tante donne e un uomo, delle zie che diventano mamme. Quindi lei dice già storicamente la famiglia non è che la voglio sfumare, ma il tempo è finito. Devo proprio chiudere, la famiglia non è solo uomo e donna, ma già storicamente non era così. Beh, il tema per approfondire, mi interesserebbe molto Marina approfondire questi spunti, purtroppo sono arrivati in termini di trasmissione e qui mi devo fermare e salutare, ma sapete che i temi li riprendiamo. Ringrazio lei come ringrazio Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei Minori di Roma, e il professor Adriano Pessina, che insegna filosofia morale cattolica di Milano. Ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento a domani. Ma domani, come sempre, alle 6.30 c'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Alessandro Longoni, c'è Peter Bescapè in regia, è arrivato anche spuntato Pietro Lacorte in regia. Siamo una squadra e vi diamo appuntamento a domani, 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le astriti da politica.